A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E spariscono gli eroi. Se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridere, gli spari sopra sono per voi. Cioè siamo governati ancora dalla Merkel secondo te? Beh, certamente, dalla Merkel insieme alle banche e al banchiere che abbiamo messo adesso come ministro dell'economia. Eh beh, insomma, sai, se poi qualcheduno tra qualche mese sto scherzando, eccetera, ma prende i fucili, cioè, poi non lamentiamoci, perché insomma, cioè, le banche di guerra ne hanno già fatte abbastanza, adesso abbiamo messo al ministro dell'economia un altro banchiere. Paolo Becchi, Movimento 5 Stelle, il cosiddetto ideologo, fa scoppiare un caso nazionale qui alla Zanzara. Se non ti sei dimenticato nel frattempo, Parenzo, occupato in altre cose, preso da altre cose, Becchi aveva anche detto, non so fino a quando il Movimento 5 Stelle frenerà la violenza, che dunque non è esclusa dall'universo mentale del mio amico professor Becchi, che io proteggerò sempre, perché ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Beh, ed è, fino a un certo punto. È un uomo pacifico. Il fatto di mettere un altro banchiere, insomma, la gente è esasperata, se tra qualche mese in braccio il fucile, non è che poi uno dice... E che vuoi che ti dica? Cioè, la situazione, se non migliora, peggiora, e non so quanto la gente possa ancora resistere, o quanto il Movimento 5 Stelle possa ancora frenare questa violenza che è nella natura delle cose. Questa violenza che è nella natura delle cose. Negli anni 70 li chiamavano semplicemente con due parole cattivi maestri. Sì. Nel 2013 potremmo chiamarlo semplicemente forse Pirlotto, ma voglio dire, attento tu a creare questi per tu mangiafuoco Cruciani, attento a creare questi personaggi e a farli diventare, no? Che poi si giustifica qualunque cosa a un certo punto, perché se uno che insegna all'università... Ma che cosa hai fatto? Sei diventato moderato? Stai per andare alla RAI? Attento, per caso? Devi renderti più moderato? Ci sono già alla RAI. Devi rifarti un'immagine. Cosa stai facendo? Quello l'ho sempre non devo rifarmi. Devi rifarti un'immagine. Dico che negli anni 70 questi li chiamavano cattivi maestri. Stai tranquillo, lo stesso l'hai già se detto. Se ti piace creare in laboratorio o in vitro da mangiafuoco della radio quale sei, un personaggio come lui, che voglio dire, si prenderà la responsabilità di quello che dice, ovviamente. Ma non è che le parole non hanno un peso poi, Non ti lamentare, Becchi, poi. Non è follia pensare che si prendano le armi. Non è follia pensare che prima o poi qualcuno prenda le armi, secondo lei? No, la storia dimostra che non, la follia non lo è stata, perché insomma, oppure dimostra che della follia nella storia ce n'è sempre stata. Golpetto strisciante se non danno le commissioni di garanzia al Movimento 5 Stelle. E io sì, tra virgolette, golpe, come del resto le elezioni che del presidente aveva ragione Beppe Grillo quando ha parlato di golpetto, colpo strisciante. L'ha annunziata da quasi ragione a me sulla vicenda di Preiti, suicidio, non suicidio, eccetera, eccetera, era meglio che si ammazzava, molti la criticano, ma secondo me ha ragione, spari a sua moglie o si butti giù da un ponte invece di sparare ai carabinieri. Lucia Annunziata, lunedì. Una persona con un forte disagio, invece di buttarsi da un ponte o di sparare a sua moglie, o di andare semplicemente via e scomparire, prende un'arma e uccide qualcuno. Scusi, delle istituzioni. Cioè, questo è tre casi posso in Italia in cui questa cosa. facile. È tornato lui, caro Parenzo, è tornato per la nostra gioia Renato Brunetta, è tornato a impazzare, sì. Già sì, da qualche sì, giorno sì. In realtà, però senti questa cosa qua sull'Imu, perché va oltre tutto, e sai che lui si batte come un leone, non solo per l'abolizione totale dell'Imu, come ma anche un leoncino, diciamo, come un leoncino, le almeno. Solite cose, i soliti apprezzamenti, sì. Sull'altezza, no. Sulla no. Statura, sei penoso, come? sei semplicemente penoso, come una me lo dici, sì, sei penoso. Hai fatto l'elogio di Becchi, ma io non ho fatto nessun elogio di Becchi, ho detto che lo proteggo contro quelli che penso che non possa esprimere, non possa dire quello che vuole. Un attimo solo, Brunetta che dice l'Imu sarà cancellata, qualcuno gli risponde ma scusi, ma Letta però non lo dice, lo dico io che siamo in maggioranza, lo dico io, aspetta. L'Imu sulla prima casa non si pagherà più, questo è il nostro grande risultato, la nostra grande vittoria. Questo per la verità il Presidente del Consiglio però non l'ha detto. E lo dico io, e che sono la maggioranza di questa coalizione. Lui ha parlato di una rimodulazione. Allora, intanto a giugno non si paga, e se vorrà Letta il voto del Popolo della Libertà, l'Imu sulla questa prima casa non si pagherà, né settembre né dicembre. Altrimenti Letta non sarà più presidente, senti. E ci sarà la restituzione. E se no il presidente Letta non sarà più presidente. Se non vogliamo chiamarla minaccia, ma insomma una condizione pesante. È una condizione in un governo di coalizione. E perché dice minaccia? Noi non minacciamo nessuno. Beh, non è una condizione in un governo di coalizione, su un elemento, su una cosa importante che è l'Imu, il PDL vuole fare come vuole lui, no? Cioè, questa è bellissimo, lo dico io, è del metro come trovo, lo dico io, e chi lo dice? Ingroia scioglie Rivoluzione Civile, non sarebbe una grande questo? Notizia. Il signor Ingroia, conosci? No, non ho capito, non ho sentito forse. Non ho potuto, Ingroia. Non ho capito. Chi hai detto? Ingroia. Non mi ricordo. Non ti ricordi? So che... Beh, è comprensibile la cosa. Io non torno in magistratura, certo che per carità lo abbraccio fortissimo, ho grande rispetto, però torno in magistratura solo se mi occupo di mafia. Beh, ho capito, però quello che dice di essere rispettoso delle regole, il CSM, le cose eccetera, però solo se mi occupo di mafia. Ho capito, però uno se è candidato in tutti i collegi tranne in Valle d'Aosta, le regole parlano chiaro, in teoria, no? Però lui si vuole occupare solo di mafia. Beh, quando ci sarà una slavina o un d'inverno, no? Ogni tanto una valanga. Beh, attribuirà la colpa alla mafia. Attribuirà la colpa a Cuto, a Rina probabilmente. La mia storia di magistrato può avere senso in magistratura soltanto senza, con il massimo rispetto dei colleghi di Aosta, soltanto dentro funzioni in linea, in sintonia con il mio passato professionale. A Aosta non ci si occupa di mafia perché non è la figura di settore antimafia, e quindi... E infine, beh, che motivo c'era? Per carità, noi siamo politicamente scorretti, ci piacciono le provocazioni, no Parenzo? Non è che siamo ultimi arrivati da questo punto di vista. È una trasmissione che sostiene apertamente i matrimoni omosessuali, le peggiori nefandezze, le peggiori promiscuità, eccetera, eccetera. Non abbiamo problemi da questo punto di vista. Però un tale signore che si chiama Luca Romagnoli, che esibisce il preservativo davanti a San Giovanni, dicendo era il primo maggio. Cosa c'entra il preservativo col primo maggio? Cosa c'entra? Luca Romagnoli, che è di un gruppo che si chiama non so come, no? Com'è che sia? Il management del dolore post-operatorio. Vabbè, lasciamo perdere. Non parliamo del il nome management. Di management del dolore post-operatorio. Un tizio che si chiama Luca Romagnoli, sentite. E cosa c'entra col primo maggio? Ma nulla, è come al solito, perché il primo maggio è il ricettacolo di qualsiasi cosa. Sentiamo. Questo è il budello che uso io, che toglie le malattie dal mondo. Prendete e usatene tutti. Fate questo, sentite a me. Siamo come lei, siamo come lei. Cioè certo, se sul palco del primo maggio si dà spazio a questi buffoni, tutto è possibile. Siamo qui. Ma poco male, è un buffone, dai. Ma sì, ma che c'entra col primo maggio? Dai, su, anche tu che sei uno aperto da questo punto di vista, meno di me. Ma questo ha detto usate preservativo. Okay, ma se tolto a un certo punto era nudo con l'uccello di fuori, si è messo. Dai, su. Vabbè, un messaggio forte. Ma però, dai, nudo con l'uccello di fuori. Ma era, si è spogliato nudo con l'uccello di fuori. Ma ha fatto bene, dove sono andato? Davanti a Piazza San Giovanni, ma dai, ma su. Ma tu te lo metti in testa, tu, per vabbè, attivo, d'accordo, poi riprendiamo dopo. Intanto è con noi Lele Rizzo, uno dei fondatori di Askatasuna. Buonasera. Oh, buonasera, moderato. Come va? Un moderato, bene. Finalmente. Sì, Parenzo, se ti accavalli a Rizzo non si capisce una fava, lo vuoi capire o no? Allora, fai rispondere. Buonasera, Rizzo. Buonasera. Oh, così si capisce bene. Allora, oggi è stato ritrovato in Val di Susa un volantino che ha come titolo Gli spari sopra, capito Parenzo? Gli spari, capito, infatti, una cosa moderata, una cosa molto... La canzone di Vasco Rossi. Sì, ma che c'entra la canzone di Vasco Rossi? Si chiama Gli spari sopra. Sì, non so se si è ispirata a questo. E l'hai messa anche come sigla di apertura. Sì, si legge, un essere umano ha lucidamente individuato i responsabili della sua miseria e ha preferito rivolgere l'arma contro i suoi oppressori, una volta tanto non contro se stesso. Di fatto, da ieri, anche i politici e i loro cani da guardia iniziano a cagarsi sotto. Perché Luigi Preiti ha semplicemente fatto quello che tutti dicono in ogni buon bar d'Italia. Ha soltanto accorciato la distanza tra il dire e il fare, il suo gesto non è affatto sorprendente. Prendete chi ha scritto sto volantino, portatelo in questura per identificarlo. Rizzo, non è che ci ha messo lo zampino lei in questo volantino? No, non ci ho messo lo zampino, l'ho visto anche dai giornali. Conosco però il titolo di questo volantino, che è anche un editoriale di un sito, Mi spiace, ma si ispira proprio alla canzone di Vasco Rossi. Ah, si ispira, ha ragione Parenzo. Sapevo anche che l'avevi messa qualche giorno fa, ma avevano anche detto. Sì, è questa qua, no? Sì. Ci stava, no? Ma è una roba che sembra tua però, scusa se te lo dico. Mia, così mia, sì. È una parola, sì, è una parola, sì. Grossa. Ma condividi quello che c'è scritto? Ma sulla terminologia non molto, devo dire, su alcuni passaggi invece di quell'editoriale che aveva quel titolo, che invito a leggere, che è su un sito pubblico, sì, che si chiama infoout.org, invece sì, che è quello che si è detto ieri, sì, anche alla manifestazione del primo maggio, che credo che per quello che mi si telefoni. Assolutamente sì, no, c'era uno striscione, comunque tu non hai nulla a che fare con questo volantino, questo lo chiariamo. No. Sì, chiariamolo. Non hai nulla a che fare, non sai chi è l'autore. No, non ne so niente. Beh, non ne sai niente, mi sembra la parola. Non ne so niente. Ma perché non avete il coraggio? Almeno negli anni 70 queste cose qui si rivendicavano, si aveva il coraggio di metterci la faccia, sì, qualcuno si metteva il passamontagna. Però no, ma almeno... ascolta, la faccia noi ce la mettiamo. Ieri abbiamo fatto una manifestazione con uno striscione parlando da un palco, quindi la faccia ce la si mette nelle cose che si vuole mettere, che ha senso mettere, che hai fatto, no? Però quindi tu la dici, faccia uno ce la mette. Io non ho né scritto né so chi sono gli autori di questo volantino che è stato sequestrato, preso in Val di Sequestrato. Ma capisci? Cosa ne devo sapere io? Beh, cosa ne devo sapere adesso, mi sembra un po' troppo. Rizzo, scusate, ma ieri c'era questo manifesto striscione, il primo maggio è per voi, la crisi uccide, e con una fotografia del signor Preiti che ha sparato in testa ai carabinieri. C'è una sorta di omaggio a Preiti, perché così è, io lo leggo in questo modo. Lo striscione aveva la sua foto, aveva delle foto di altri disoccupati che si erano suicidati. Però la foto più grande di la foto più grande, c'era anche la foto di Preiti, certo, che era certo, quella più grande. Ora, a te è chiaro che questo signore ha sparato in testa un carabiniere, sì? Certo. E perché lo hai omaggiato allora? L'ho omaggiato, io faccio discorsi collettivi, poi ci sono io anche, ci mancherebbe su questo. Non è un omaggio, ma è stato un discorso chiaro, poco ipocrita rispetto a tanti discorsi che ho sentito, che ho visto anche il tuo intervento su questo, l'ho sentito anche qualche giorno fa, no? Dove dicevi che se aveva dei problemi era meglio che si suicidasse. Perché secondo me le cose sono un pochino diverse. Io credo che se fai un giro tra la gente, come capita almeno a me di fare, quanti ti dicono prima che mi succede qualcosa vado lì, tirerei giù tutti, nel senso di parlando dei ministri e dei politici. Ma secondo te il carabiniere chiaramente non c'entra assolutamente, credo non c'entri assolutamente niente anche in quello che voleva fare quel signore. È un gesto, quello che diciamo noi è che è un gesto di disperazione, inutile dire di no, solo che a differenza di altri che si danno fuoco e non gliene frega niente e poi qualcuno è contento e butta due lacrime, quello voleva fare quella cosa lì, come si sente dire dappertutto, ti assicuro che la manifestazione mentre passavamo la gente non è che diceva cose diverse, il carabiniere non c'entra nulla. La manifestazione non è che sia la gente, è un microcosmo, un microcosmo. No, io ti parlavo sia della manifestazione che però della scusa, gente. Scusami un attimo, resta il fatto che questo qua ha sparato in testa un carabiniere e che tu, voi, quello che vuoi, l'avete messo sopra un manifesto a mo' di eroe, a mo' di eroe. Questo resta, uno che ha sparato in testa un carabiniere. Signor Rizzo, su, dai, Lele. No, ma non è il concetto del carabiniere, come già detto non c'entra. E ho capito, però i fatti sono quelli, ma come non c'entra? Sì, i fatti sono quelli, infatti la sua foto era lì, il bersaglio non era che chiaramente il carabiniere, per quello che mi riguarda è quello che voleva dire quello striscione, il bersaglio sarà stato a quegli altri politici che voleva prendere che non c'è riuscito, poi non entro. Peccato che non c'è riuscito. Ma come simbologia è importante. Ma peccato che non c'è riuscito, dici tu? Ma se quello che voleva fare, sì, perché se credo tra un ministro e un carabiniere, credo che volesse prendere un ministro, no? Cioè è meglio prendere il ministro che il carabiniere? Ma no, ma io non invito ad andare a dare pistolettate a nessuno, ma non sono queste le cose che faccio. Io faccio percorsi di lotta, no? I movimenti, queste cose qui che non contemplano le pistolettate, quindi non è quello. È per tentare di togliere un velo di ipocrisia a questa cosa e far capire che comunque, sai, qua tutti i privilegiati devono anche rispondere delle loro azioni, evidentemente, se c'è gente che pensa quello. Scusi, tutti i privilegiati devono rispondere alla loro azione, cosa significa? Che lui è giustificato? Cioè, in qualche modo tu capisci la sua rabbia nel prendere una pistola, la capisci? Io lo capisco, non lo farei, ma lo capisco, certo. Come capisco quegli altri poveracci che si danno fuoco, che però non fanno notizia, e lui voleva fare notizia. Dunque è meglio fare notizia in questo modo, se uno proprio deve fare un gesto eclatante è meglio fare notizia, così se ne parla. Ma quello è lo scopo che vuole, io dico che se devo darmi fuoco o fare male a qualcuno che ritengo che mi abbia fatto male, preferisco far male a qualcuno, che non è il carabiniere, quello sicuro. Però scusami Rizzo, è un discorso folle, perché in realtà questo qua, se proprio uno vuole scendere nei particolari, aveva debiti di gioco, giocava non so dove, e si era separato con la moglie, si era separato con la moglie. Ma sai quanta gente c'è nelle sue condizioni, e sai anche che magari i suoi debiti di gioco sono portati da tutte queste macchinette, no, che ci sono in giro. Ho capito, le macchinette uno sceglie, ma uno sceglie di giocare, non è che uno viene forzato a giocare, sceglie perché ha un vizio e poi ha debiti e dopo è pazzo e spara un carabiniere, non è la crisi. Comunque traffico, torniamo subito. No, non lo so, io dico che invece la crisi c'entra molto, perché evidentemente faceva una vita di merda portata dalle sue condizioni e ha fatto quello, dopodiché non è un eroe, è uno che ha fatto una roba. D'accordo, ma se tu lo metti in un manifesto, in un cartellone con scritto il primo maggio è per voi, lo trasformi automaticamente in un eroe, lo capisci o no? Traffico, no, lo subito. Capisco, ma non è un eroe, è una dedica a tutte quelle persone che soffrono la crisi. È una dedica, vabbè, giochi sulle parole, sei abile come me, quasi come me, ma non mi convinci. Traffico. La Zanzara. La zanzara capricciosa, la zanzara. Siamo qui, la zanzara, 800240024. Parenzo, ci sei? Sempre a Roma, sì? Certo che ci sono. Volevo capire dal compagno rivoluzionario di Ascatasuna, a questo punto, sì, che la dica veramente tutta, via la maschera, via l'ipocrisia, via i giochi di parole, via giochi di parole, artifici retorici per far capire e non capire. Con coraggio, mettendoci la faccia, lo devi dire. Lo devi dire chiaramente. Cosa sparare però? Sparare a un ministro in questo momento lo capisco. Questo è il tuo fine, è finita la discussione. Però bisogna dirle le cose. Così la pensi? Rizzo, così la pensi? No, io ho detto che può succedere, è diverso. Che significa può succedere? Vabbè, però non fare l'analista. L'analista, tu devi fare. Che viviamo in un mondo difficile, che è quello che pensa tanta gente, dopodiché non lo fa ed è un altro discorso. Ma lo capisci chi lo fa però? Ma ci può stare, lo capisco, perché nelle sue condizioni, te lo ripeto, quello invece che darsi fuoco ha deciso di far quello. Poi io non lo farei, però quello è il concetto. Cioè quando tu dici io sta in questo. Sì, ma ho capito, però capisci che siamo in guerra, quindi. Tu pensi che c'è una guerra, questo è il punto. Se uno spara siamo in guerra. No, non penso che ci sia una guerra, non mi sembra, guardandomi intorno, che ci sia questo. Penso ci sia molta disperazione, questo vedo. Non, la disperazione può portare alla pistola, dici? La disperazione può portare a tante cose, questo sì, ma non sono io un analista per dirlo, mi sembra la realtà, no? Ma tu ti senti in guerra contro dappertutto in guerra contro i politici? Ma la guerra mi sembra che sia una parola grossa, per fare le guerre ci vanno gli eserciti, quelle cose lì, quindi non si può parlare di guerra. E per quello che riguarda me e quelli come me siamo in lotta, questo di sicuro. Beh, sulla TAV non c'entrano assolutamente nulla da questo punto di vista. Però quando tu dici, tu ieri hai detto noi siamo al fianco di chi si ribella, il primo maggio è per voi, quello dei preti è il gesto di chi non ce la fa più, se si fosse suicidato non avrebbe fatto neppure notizia, noi siamo al fianco di chi si ribella. Dunque preti secondo te è uno che si ribella? Ha fatto un gesto individuale, io sono per i gesti collettivi. Beh, ho capito, però sei al suo fianco, perché quando al fianco di chi si ribella, quello chiaramente, al fianco suo, se ho portato uno striscione dicendo quello, dico che lo capisco, ma non è il mio eroe, chiaramente. No, ma è una roba di girare intorno alla questione, ti ho spiegato come. No, d'accordo, però se tu fai uno striscione e poi dici io sono al suo fianco, perché questo dici, cioè, sono al ma suo. Ma non è Che Guevara quello lì, non è mica. Non siamo in Bolivia, No, ma c'è chiaro a tutti, Beh, mica tanto. Ma lui ha fatto quello che tutti dicono di voler fare? Che tanti dicono di voler fare che non fanno, Ma guarda che, ma scusa, adesso senza continuare a fare sto gioco, ma nel mondo succedono queste cose, voglio dire, c'è gente che si imbottisce di esplosivo, che è disperata, che si fa saltare la maschera dietro altre cose. Ma dove? Queste sono quando? Le cose come in altre parti del mondo, mi viene in mente la Palestina e tante altre cose. Ma capito, ma quelle sono altre questioni. C'è disperazione, non sono altre questioni, c'è sempre dietro una disperazione. Ma non siamo mica in Palestina, Rizzo. Non siamo mica in Palestina. Lo so, me ne accorgo. Che sarebbe meglio, cioè, te ne accorgi in che senso? Che bisognerebbe stare in una situazione tipo Palestina, no, di rivolta? No, mi accorgo di stare in Italia. Secondo me volevi dire un'altra cosa. Comunque, è dall'inizio che vi volete far dire delle cose perché mi pare che abbia già detto e fatto molto, perché già esporre quella foto vuol dire capire da che parte si sta, quindi già quello mi pare dica tutto, non è che c'è. Scusa, ma tu stai con Preti o con il carabiniere che è stato ferito? Ma io non sto con nessuno, io sto con i deboli, con quelli che patiscono questa crisi. No, però e qui ci per sono cambiare due le cose. D'accordo. Se roba di sparare a un carabiniere non rientra tra le cose che io farei. D'accordo, ma quello lo compatisco perché è un poveraccio che ha fatto quel gesto. D'accordo, però qui bisogna scegliere tra il singolo che spara un poliziotto al carabiniere e il carabiniere. Tu tra i due con chi stai? Ma io non devo scegliere niente. Ma come devi scegliere? Non sto proprio con nessuno, sto dalla parte di chi lotta, come ti dicevo, e ti ripeto che i gesti individuali non mi piacciono. Ma quello non lo però, vedo, però li capisci. Andare là sotto e entrare da quel portone, questo è quello che io farei. Cioè che faresti, scusa? No, dico, preferirei andare lì a Montecitorio e entrare con un corteo. E che fai? Che ci fai? Dentro Palazzo Chigi, che ci fai? Calci nel culo, come sarebbe normale che tanta gente vorrebbe fare, come mi sembra normale. Mi sembra che in pochi siano soddisfatti. Ma non è bello entrare, situazione. Scusa, però, da Rizzo. Qui, alla violenza di cui si stava dicendo prima, mi sembra che. Però, scusa, non è bello entrare dentro il Parlamento e prendere a calci nel culo i politici? Gli eletti dal popolo. Cioè, è una roba, perché no? Ma no, ma è una roba così, una roba perché che siamo in democrazia. Ma c'è la democrazia, non è una dittatura castrista, capito? Mi sembra un gesto democratico. O non c'è la democrazia, o non c'è la democrazia. È una democrazia molto particolare, mi sembra, no? Visto il governo, viste le situazioni e quant'altro. Ma non sono io non mi accontento di votare tanti come me, sì. No? Se no non ci sarebbero i movimenti, non ci sarebbero le lotte. Ma il governissimo PD-PDL è una specie di dittatura, secondo te? Ma dittatura anche lì, dai, mi sembra una domanda. una grande mossa istituzionale, tutta l'aspettativa di cambiamento mi sembra che l'hanno messa giù piano. E invece contro la TAV la violenza è giustificata? La violenza è giustificata contro la TAV, ci sono delle risposte che vengono date, non si tratta di violenza. No, però sì o no, è giustificata o no? E questo è momenti di scontro ci sono stati e sono giustificati sicuramente. Cioè è giustificato usare la violenza per bloccare la TAV? Difendersi dalla polizia. Vabbè, difendersi dalla polizia è un altro. Tagliare le reti di un cantiere, queste cose qua io. Certo, ma guarda, amico mio, che lì ci sono dei poliziotti che difendono un cantiere, che è un cantiere voluto per fare un'opera pubblica. Quindi chi attacca sono quelli che attaccano, quelli lì che devono in un unico paese incivile al mondo in cui dei poliziotti devono difendere un cantiere. Cioè, ci rendiamo conto, un cantiere devono difendere. No, ma lì ti dovresti rendere conto d'altro. Ma perché dei poliziotti devono difendere un cantiere? Perché c'è una massa di criminali per il mondo che va lì e gli rompe le scatole, o forse perché quel cantiere è un problema che nessuno credo che questo sarebbe lungo. Ma la lascerei fuori momentaneamente. Lasciamola fuori. Va bene, grazie a Lele Rizzo, grazie, a presto, grazie per essere stato con noi. Ciao. 800 24 00 24. Bah, caro Parenzo, bah. Ne parliamo dopo, va, giornale radio. La Zanzara. Dottore, la parola, dottore, ho l'occasione di questo, fatemelo dire. sta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così mettiti. Devono andare tutti a casa! Non voglio farti fretta, ma troppo inizia la festa. Siamo qui la Zanzara 800240024. Parenzo, sei vivo o ti ha colpito una fatua del professor Becchi, che adesso è stato praticamente smentito dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, che dicono non appartiene al nostro movimento? Solo adesso lo dicono, solo adesso. Becchi è una persona irresponsabile. Ma falla finita. Un cattivo maestro senza avere quella cifra grandiosa che aveva ad esempio Toni Negri. Toni Negri, cifra grandiosa? No, aveva una cifra intellettuale almeno. No, dillo, aveva una cifra grandiosa Toni Negri, dillo. Dillo, Toni una Negri, cifra grandiosa, Toni dillo, Negri è stato dillo. Un grande professore di filosofia del diritto. Ma chi se ne frega, ha fatto quello che ha fatto. Ha scritto libri su Spinoza, sì, ed vabbè. Era un grande riconosciuto intellettuale, visto sì, che è stato riconosciuto intellettuale anche all'Università sì. di Padova. Sì, ma che c'entra? È considerato un cattivo maestro, ed sì. è considerato... Ed è ah, tu non lo consideri però, mi sembra di capire. Quello che conto io, è considerato, ho detto, è considerato un cattivo maestro. È sì, vabbè, fammi sentire i titoli del TG3. Dai, zitto, ci ha messo la faccia, ha pagato per perché quello Becchi che fa, non lo dice perché Becchi ora, non lo no, fa. Becchi è diverso, perché Becchi invece è più sottile, capito? Cioè è più sottile perché invece fa quello che adesso fa il rivoluzionario oggi nel salotto, però poi smentisce, no, ma io non ho detto, almeno dico Negri e quelli che hanno fatto la storia degli anni 70. Beh, mettevano la vabbè. Faccia su quella roba lì. Alla gente non gliene frega niente degli anni 70. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Letta ottimista dopo gli incontri con i leader europei. Meno tasse senza sfasciare i conti pubblici. Primo impegno, il lavoro per i giovani. La Banca Centrale Europea riduce il costo del denaro, tassi al minimo storico 0,50%. Draghi, le banche non hanno più scuse per non finanziare famiglie e imprese. L'OCSE, l'IMU non è una priorità, prima detassare il lavoro. Saccomanni, per esodati e cassa integrazione, no a misure improvvisate, tetto al deficit, invalicabile. Brunetta, IMU abolita o ce ne andiamo? Fassina, i soldi non ci sono. Becchi, 5 Stelle, governo di banchieri, magari qualcuno prende il fucile, ma i parlamentari del movimento prendono le distanze. Napolitano non resterà 7 anni al Quirinale, dice il suo ex portavoce Cascella, dopo le riforme si dimetterà 2 giugno all'insegna dell'austerità. Riservata per altre 48 ore la prognosi del brigadiere Gian Grande, l'attentatore Preiti dal carcere dice «volevo suicidarmi prima». E il TG3 nelle carceri femminili, dove bimbi che hanno meno di 3 anni vivono con le madri. Dovrebbero stare in case famiglia, ma mancano i soldi e dunque crescono dietro le sbarre. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Adesso Mastrangeli fa appello a Grasso, tu ti rendi conto? Mastrangeli si appella a Grasso. Però caro Mastrangeli, noi siamo dalla tua parte. Sei stato espulso per una follia, per queste regole ridicole, burocratiche, fuori dal mondo, che non bisogna partecipare. Ci sono le regole, per carità. Però mi sembra che l'unico delitto di cui sei accusato è la partecipazione al talk show della D'Urso. Cioè sei stato connivente con la D'Urso, questo è il punto, cioè, invitato dalla D'Urso, questo è il grave delitto di cui sei accusato, gravissimo delitto. Dunque noi siamo dalla tua parte, però adesso l'appello a Grasso, mettiti l'anima in pace, ti hanno cacciato fuori, fatti forza di questa cosa qui, è un punto a tuo favore, beccate tutti i sordi. Vi do in anteprima un comunicato stampa che sto per inoltrare a tutte le agenzie di stampa. Allora, il cittadino senatore del Movimento 5 Stelle Marino Mastrangeli chiede al Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso che impedisca che il sottoscritto senatore Mastrangeli venga illegittimamente e infondatamente espulso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a cui appartiene. Un proclama ufficiale. Scusami, ma lo sai che dicono? Lo sai che dicono i parlamentari del 5 Stelle? Che è tecnicamente pazzo, lo sai, sì. Ma dove stai? Al cesso, scusa? Sei al cesso? No, sono nel mio ufficio. No, ma sei al cesso, sto sentendo rumori di cesso, cioè stai tirando la catenella, io dico roba da matti. È il mio ufficio. Ma vedi Parenzo, tu quando arrivi a queste condizioni qua si vede quando sei atterrato, usi droga, bevi, Parenzo, perché quando sei in queste condizioni non so mai se ti droghi o se bevi. Intorno c'è un mondo che ha già Avete sentito la voce di Erminio Boso? Erminio Boso, ex senatore, eurodeputato della Lega Nord Trentino, il quale ieri ne ha dette di tutti i colori. Tutti i colori nei confronti del neo ministro dell'integrazione Chieng. Ma chi cazzo è quella voce che si sente in sottofondo? Ma vai a casa! Mettiti da qualche parte! Di Andrea Di Carlo e di Paolo. Ma me ne sbatto, ma chi se ne frega? Alcune tra le teste. Ma non me ne frega niente, basta, stai zitto. Non me ne frega niente, non me ne può fregare di meno, stai zitto. Mettetemi la Padania, dai, mettetevi qualche canzone padana. Il fatto che è di colore per te è un problema? No, basta che resti a casa sua. A casa sua dove? In Congo. No. C'è l'aria del letto, premi grazie a tutto. Finalmente abbiamo una ministra di colore per la prima volta nella storia della Repubblica, ministra all'integrazione, mettitela via. Ma scusa, mettitela un cazzo te, mettitela via. Come puoi dire tu una cosa del genere quando non sai nemmeno come ha fatto questa arrivare in Italia? Cioè lui ha dei sospetti su come il ministro Chieng sia arrivato in Italia. Erminio Boso. Perché per te non è stato giusto fare un ministro di colore? Ma perché non è una persona che può dare una garanzia di come è arrivata in Italia? Ce lo spieghi la signora come è fatta arrivare in Italia? Ma sarà arrivata attraverso una borsa di studio, che ne so, è diventato... Ma chi te l'ha detto? Ma com'è arrivata? Con i barconi, com'è arrivata secondo te? Ah beh, per conto mio ci sarà sempre stato il solito gioco della Caritas. Vai avanti tu che io rimango. Io voglio far risentire Luca Romagnoli, Luca Romagnoli di quel gruppo che si chiama Management del Dolore Postoperatorio, perché è una delle cose che mi è rimasta impressa di questa cosa inutile del primo maggio. Luca Romagnoli di questo gruppo, il quale il giorno del primo maggio parla di preservativi a San Giovanni, mostra il preservativo, tira fuori l'uccello, Romagnoli. Questo è il budello che uso io, che toglie le malattie dal mondo. Prendete e usatene tutti. Fate questo, sentite a me. Tu così ti guardo meglio. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Vai avanti tu. Maurizio da Grosseto, 800 24 00 24. Buonasera Cruciani. Dica. Certo, parlare dopo l'uccello diventa un po' difficile, in effetti. E volevo ricordare però, nella sua tragedia, il gesto di Preiti. Io non sono veramente d'accordo con Rizzo nel mettere una foto di lui come dedica. Ci poteva fare la dedica a Gian Grande, casomai lui sì vittima delle istituzioni, così come altri 50 imprenditori che si sono suicidati nel 2012. Un attimo solo, Maurizio, mi faccia sentire Vecchia Scati G24. Quella mia affermazione, ha capito che non c'era alcuna istigazione alla violenza, e se è il caso lo posso ribadire anche adesso, ma non mi sembra proprio il caso, perché non c'era da parte mia alcuna forma di istigazione alla violenza, era soltanto la constatazione di una drammatica situazione in cui vive nel nostro paese, che finora il Movimento 5 Stelle ha cercato di controllare dal punto di vista democratico. Soltanto questo che ho voluto dire, come ho detto, sì. Ribadito in questi miei interventi radiofonici e anche in alcuni scritti che sono apparsi oggi su alcuni quotidiani online. Beh, no, è importante che lei appunto abbia ripetuto a Sketch G24 che stava scherzando, vista la pioggia di reazioni molto dure da più parti, no? Dal parte del Popolo Libertà, del Partito Democratico. Non lamentiamoci se poi va a succedere in un certo modo la cosa se non prendiamo dei provvedimenti ora, ecco, è quello che era il senso della mia battuta, ma l'avete sentita tutti perché l'avete riportata anche adesso, diciamo così, presa direttamente dalla Zanzara. Non c'era affatto alcuna apologia di violenza o di cose di questa natura. Senta, allora torniamo anche però sul ministro dell'economia, su Saccomanni, no? Ho sentito quello che ha detto in giornata. Allora, il punto è questo, Becchi dice prendere i fucili, stavo scherzando. Però, caro Becchi, sì, è vero che in un inciso dell'intervista dici stavo scherzando, però dopo insisti, cioè, il ministro dell'economia hanno nominato un banchiere, allora poi non lamentiamoci se la gente prende i fucili. Quando uno fa affermazioni del genere... è una forma di istigazione, no? No, non è una forma di istigazione, non c'entra nulla. No. L'istigazione allora, per me non c'entra. È chiaro che il clima degli anni 70 è completamente no, diverso. No, ma il problema è un altro. Ma in un contesto come questo, a pochi giorni dalla sparatoria che c'è stata... Ma infatti stata è l'evocazione dei fucili che è sbagliata. Non è l'evocazione dei fucili, però non si può dire stavo scherzando, non si può dire stavo scherzando. Ecco, Toni Negri non l'avrebbe mai detto. Oh, costo Toni Negri, ma lascia perdere Toni Negri, che è uno dei peggiori intellettuali che abbiamo mai avuto, dai, basta. Stavo scherzando. Maurizio da Grosseto, prosegua. Comunque Becchi un altro che tira il sasso e nasconde la mano, secondo me. E stavo parlando della morte dei tanti imprenditori dall'inizio dell'anno... E per me riportare poi tutto quanto alla questione del lavoro, che significa avere dignità, è fondamentale. Quando a un uomo si toglie la dignità diventa poi imprevedibile. Bisogna che ci sia veramente una presa di coscienza da parte delle istituzioni. Ma non ho capito cosa c'entrano le istituzioni con uno che perde il lavoro, e in una società occidentale bisogna mettersi in testa questa roba qui, Maurizio, in una società occidentale fondata sul mercato ci sarà sempre qualcuno. 12.442 benissimo fallimenti nel 2012, d'accordo Maurizio, non voglio fare fare l'elogio del fallimento, ma in tutte le società occidentali dove funziona il mercato ci sono i fallimenti, c'è la gente che perde il lavoro. Ve lo dovete mettere in testa, sì o no? L'occupazione piena non esiste, dall'inizio dell'anno in quest'anno si è non è vero, siamo i lavoratori che hanno perso i lavori sono 3 milioni. Qual è un altro paese che sarebbe un discorso lungo. I disoccupati esistono in tutto il mondo. Chi ha perso il lavoro e si è separato dalla moglie, ha debiti di gioco, prende una pistola e spara in testa un carabiniere, non ha niente a che fare con la crisi economica. Ma lo volete mettere in testa o no? Questa è la giustificazione. Io infatti ho premesso che poi è stato interrotto per sentire il TG24, ma io ho premesso che la dedica non si doveva fare con la foto, Rizzo non doveva mettere la foto. Vabbè, lasciamo perdere Rizzo, ma chi lo conosce, su dai. Grazie Maurizio, Emanuele della Spezia. No, sai qual è il problema? Ma veramente il Giangrande lo sappiamo, Emanuele della Spezia, non è la questione. Mi fai sentire Emanuele, la conduco io sto cazzo di trasmissione o no? Emanuele, dai. Ma sai cos'è? Caro Cruciani, volevo riprendere il discorso di Parenzo di ieri. Sì. Che etichettava la trasmissione come pro governo Letta. Te hai preso le distanze, ma in realtà mi sembra che nell'ultima settimana abbiate perso un po' di verve, insomma state a picchiare sui deboli. Abbiamo perso verve e a picchiare sui deboli. Io picchierei lei per questa cosa che ha detto Emanuele, cioè, le darei prima due bastonate a testa. Ma che vuol dire? Eravate più taglienti, ora sembra che vanno abbassato le orecchie. Ma quale abbassato le orecchie? Ma lei cosa? Sono state le botte di pannella. Ma lei cosa sta ascoltando? Lei sta ascoltando un'altra trasmissione. Abbiamo fatto un casino da quando è successa quella roba. Ma che dice? Ma di che parla? Ma cosa che dico? Cioè, dovete cambiare la sigla finale. Cioè, al casello di Santo Stefano, quando ascolto la Zanzara, voglio sonnecchiare. Ma che sonnecchiare? Ma lei sonnecchia, lei non si preoccupi, c'è gente che non sonnecchia. Paranza è veramente chi è? Da chi è pagato? Diciamoci la verità. Vabbè, Emanuele, lei ha sbroccato. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Ma resti lì, Emanuele, non capisco cos'è che non le piace. La Zanzara. È ancora in casa, Simo. La Zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Torno a me e balli su twist, e balli su twist, a sbattere la twist. una polpaccio e poi all'altro una botta nel braccio. Siamo poi... qui 800 24 00 24. Mi fate sentire il golpetto strisciante, no? Il potere visibile e invisibile del professor Becchi dietro l'attentato di Palazzo Chigi e forse dietro anche una provocazione, secondo lui, che era pronta a scattare con la violenza quando Grillo doveva presentarsi a Roma la sera in cui fu eletto Napolitano Presidente della Repubblica. Manca la risposta, chi è che orchestra queste cose? C'è un grande vecchio, guardi, secondo lei, i servizi, guardi, qualcuno? Guardi, mi dia una risposta. C'è il potere visibile e c'è il potere invisibile. Questo potere invisibile da chi è rappresentato? Se fosse rappresentato da qualcuno non sarebbe visibile, è il potere invisibile. Ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. Benedetto da Padova, buonasera. Buonasera. Vada. Posso? Senta, io volevo dire che voi siete due marchettari. Oh, che bello. Assolutamente rivoltanti. Bene, mi piace questa cosa. E adesso cosa se vuole le spiego anche perché siete due marchettari. Sì, rivoltanti anche. E gente assolutamente non seria. Sì. Perché voi state attribuendo alle persone che chiamano un pensiero o delle parole che loro non hanno espresso. Sì, per esempio? Per esempio, voi state mettendo in bocca a queste persone. Ma chi? Una quali persone? Quali persone? Quelle che hanno chiamato. Ma quelle che hanno chiamato quali? Sono tante persone che chiamano. Non mi ricordo il nome, evidentemente non lo ricordo. Vabbè, allora? Molte persone che hanno chiamato, a molte persone che hanno chiamato, voi state insinuando che giustifichino quell'atto di quel pazzo. E voi siete tanto poco seri che non riuscite a capire, o fate finta di non capire, è vero, quanto queste persone molto chiaramente dicono, e cioè che viviamo in una situazione portata a questi estremi, è vero, da una classe politica infame, ok? Costituita da una delinquenza organizzata in partiti politici, e questo voi non lo dite ed è la verità che appare evidente a tutti quanti. Rispondi tu, Parenzo, io mi sono stufato. No, adesso voglio capire questo, scusi, le hanno tolto il farmaco da quante settimane? No, e siete voi che vi drogate, io non uso farmaci di nessun tipo. No, beh, questo dipende. Il farmaco siete che le avevano prescritto. Voi siete drogati e gliel'hanno cambiato. È vero? E siete rivoltanti, assolutamente non seri. Ma perché? Vabbè, le hanno cambiato il farmaco, diceva, a questo ascoltatore, è chiaro. Quanto diceva Cruciani un momento fa, a proposito che in un paese dove vige il mercato è possibile perdere il lavoro, e questo è assolutamente vero, è altrettanto vero, ma voi non lo dite, che a questa situazione siamo arrivati grazie ad una politica infame di gente che non merita le fucilate, merita la ghigliottina. La ghigliottina, eccoci qui, sì, con la ghigliottina, eccoci sì, qui. Io l'avevo detto al ghigliottina. E perché voi non siete la ghigliottina, voi siete boia. I boia di chi? La ghigliottina verso qualcun altro, però, verso chi non la merita. Benedetto, invece i politici dovrebbero essere messi di fronte al muro, magari col protone d'esecuzione, Certamente, non con certamente. Il muro, ma certamente non con un pazzo che spara perché ha perduto la testa. E con chi? Un popolo in rivolta, perché è questo che succederà. Sì. Beh, Parenzo, io al primario avevo detto, aspetta, sì, cambiare. Ma vada a fanculo, Parenzo, ma vada a fanculo. Hai capito? Io ripeto, al primario gli ho detto, stai attento perché se cambi il farmaco va cambiato, ti spiego, gradualmente. Farmaco, non sto prendendo nessun farmaco. Gradualmente siete te lo devono cambiare. Drogati, e c'è da vergognarsi che Radio 24 dia i soldi a due cialtroni come voi. Scusi, Benedetto, sì. Ma lei in che zona di Padova si trova, così per curiosità? Giusto per curiosità, Sui Colli Euganei. Su Colli Euganei, bellissimo. Che c'è, che c'è da quelle parti, Parenzo? C'è un'atmosfera. No, è molto bello, c'è un'atmosfera idilliaca, dove c'è magari un ospedale con la vista, un bell'ospedale dove vengono delle signore. Io mi vergogno di continuare a ragionare con voi. Chiudo e ragionare. Un accidente. Ragionare. No, perché il suo ragionamento invece filava liscio, no? Cioè, il suo ragionamento era di altissimo livello. Bisogna, cioè, mettere i politici di fronte al muro e sparare col protone d'esecuzione. No, la ghigliottina, ho parlato di ghigliottina. Allora cambia tutto. Perché sono responsabili di questo disastro. E allora cambia tutto. Sono responsabili di questo disastro. E allora cambia tutto. E voi lo negate e preferite parlare di un pazzo che ha tirato una revolverata in testa ad un carabiniere. Dunque, cosa che non si giustifica, ma ancora meno si giustifica governare un paese secondo i criteri della criminalità organizzata. organizzate in partiti politici, questo voi dovreste dire. Scusi Benedetto, ma siete dei venduti e quindi non lo dite. Siamo leccherete il culo al nuovo potente che arriverà, chiunque esso sia. Leccherete il culo al nuovo potente. Beh, io mi sono sì. Scusi un attimo, Benedetto. Per cui primario dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio, conosce l'ospedale Sant'Antonio, Benedetto? Non esiste un ospedale, non credo, perché non frequento quegli ambienti, tantomeno gli ambienti dei malati di mente. Come voi sperereste di insinuare, io sono sanissimo di mente. No, ho detto che cambiare il farmaco bruscamente. Ma vada a cagare il farmaco, ma se lo prenda lei il farmaco, per diventare un po' più onesto. Ma io non ho capito, Benedetto. Vabbè, abbiamo capito, Parenzo. Il signor Preiti, lei, quello che ha sparato al carabiniere, ha fatto bene o ha fatto male? Non insista a farmi dire cose che non penso, ho detto. Tanto. Il signor Preiti è un pazzo, un disgraziato. Questo ho detto. Sì. E dunque? E dunque cosa? Mi vuole far dire delle cose che non penso e che non ho detto? Non lo penso. No, lei pensa di peggio. Sto parlando lei... della vostra serietà di giornalisti. Sì. Non sto parlando del pazzo che ha sparato al carabiniere. Sto parlando della vostra serietà. Mi dia retta. Sui Colli Euganei c'è un posto meraviglioso sopra Teolo che si chiama Settimo Cielo, dove io andavo sempre da ragazzino quando andavo a pulire. Probabilmente andava ad ubriacarsi. Andavo a pulire con le fidanzate in quel posto meraviglioso. Allora lei prenda la bicicletta o il motorino, perché vada al Settimo Cielo, si distenda al sole e riprenda il farmaco che le avevano, che adesso le hanno tolto. Ma vada a cagare Parenzo, vada a cagare. Massimiliano da Milano, buonasera. Sera. Vada. Io se non ricordo male ho ascoltato ieri sera Parenzo dire che se avesse avuto impegni familiari pregressi avrebbe portato i suoi bambini o la sua bambina, non ricordo, al concerto del primo maggio. Sì. Allora, siccome ho anch'io dei bambini, vorrei sapere dal papà Parenzo come avrebbe spiegato l'idea geniale di quel simpaticissimo cantante che si è inventato questa messa col preservativo. Non solo col preservativo. E adesso si è calato i pantaloni e ha tirato fuori l'uccello. Ho capito, ma non è uno scandalo, è l'uccello, ho detto il pene, l'organo sessuale. No, ma non mi interessa quello, non è quello. E non le interessa. Mi interessa il giudizio di Parenzo sul primo, cioè come glielo spiega sua figlia? Perché diciamo che intanto l'oscenità risiede in altro e non in questo. Sì. Gli avrei spiegato che, scusi, l'avevo portato una settimana fa un vestito a riparare, pronto? Sì, ma qui siamo alla follia, abbiamo anche visto. Che vuoi fare? Va bene. Fatto così. Ti piace tutto. Il mio vestito tutto. È pronto? Sì. Il vestito di Parenzo. Era un vestito quello blu. Che doveva cambiare la fodera. Un classico. Blu è un classico. Domani, era una settimana fa. Vabbè, ma ognuno ha la sua luce. L'amico dei poveri alla tintoria personale, credo, porta i vestiti. Sfrutta il lavoro, è uno sfruttatore, altro che porta i vestiti in tintoria, porta i vestiti in tintoria, vabbè. È oggettivamente, però non mi ha risposto. Direttorissimo. Sì, un attimo. Okay. Facciamo finire questo colloquio tra signor Parenzo. Signora Giada, io ho lavorato qui una settimana fa, no, per rifare la fodera. Quando è pronta questa adesso? Stasera pronto. Passami la signora un attimo. Passami la signora. Aspetta, che le passo Cruciani di Radio 25. Sì. Sono Cruciani. Signora? Signora Giada? Sì. Sì, buonasera. Per favore, mi può fare una cortesia? Siccome Parenzo ha bisogno di questo vestito... glielo può fare in fretta, perché altrimenti non ne usciamo da questa situazione, così almeno io già fatto, però solo questa mano vabbè non si capisce che diceva lei, Massimiliano, non ho capito. No, chiedevo appunto di capire il giudizio di Parenzo, cioè un consiglio da padre a padre, visto che lui è così aperto e così come possiamo dire? Sì, aperto, moderno. Allora vorrei capire rispetto alla figlia cosa avrebbe detto. Cosa avresti detto, David? Vabbè. C'è il vestito. cosa avresti detto a tua figlia di fronte al preservativo esposto da parte di Romagnoli? Domani, avanti. Domattina alle 9 sono qua io, però alle 9, Vabbè. Perché se no è un'indica, sì. Massimiliano, aspettiamo i suoi comodi, aspettiamo. Allora, cosa ha detto questo? Cosa vuole? Vabbè. No, questo mia cosa figlia, vuole con cosa ho detto, non cosa mi ha detto? Cosa le interessa a lei? Cioè, è molto, non c'è nulla di osceno in sé. No, voglio dire, non metta in mezzo mia figlia in queste cose. No, l'ha detto lei ieri sera, mi ha fatto pubblica notizia, io l'avrebbe portata. Ieri sera ho detto che avrei portato molto volentieri mia figlia al concerto del 1° maggio. Bene. E quindi sua figlia avrebbe assistito a come l'ho scena. Portata, come l'avrei portata alla manifestazione del 25 aprile? Non svicoli e risponda, per cortesia. Lei ha detto che l'avrebbe portata, mi dice cosa gli avrebbe detto. L'avrei detto che è il gesto di uno che è un matto, che ha fatto una roba eclatante, ma non c'è nulla di osceno. Eclatante, non c'è nulla di osceno. Ma sì, ma non questo è un problema, guardi che... Benissimo. Vabbè, Massimiliano, ognuno porta i figli dove vuole. Silvia da Parma, Silvia da Parma, buonasera. Ma pensa a te. Buonasera. Sì, dica. Pronto? Sì, prego signora, dica. Dunque, prima di tutto volevo dire a Cruciani, a Parenzo, di non nascondersi così tanto, perché ha fatto proprio fatto una figura da imbecille adesso. Ma chi? Comunque, io volevo dire una cosa. Ma in che senso ha fatto una figura da imbecille? Io ho 58 anni. Silvia, perché ha fatto una figura da imbecille? Perché non ha saputo rispondere a quel signore di prima. In secondo luogo, volevo dire... David, chi erano quei rumori prima al telefono? Di David? La vuoi finire di fare tweet o di fare cose mentre sei al telefono, cazzo? Silvia, dica. No, erano i miei... Per favore! Allora? Scherzavo l'età, io voglio dire soltanto una cosa, io ho 58 anni, io non so quanti anni abbia lei, quanti anni ha Cruciani, però io voglio dire una cosa abbastanza seria, gli anni 70 sono iniziati così, con giustificazioni assurde per gesti fatti violenza, da criminali, sì. No, per gesti fatti da criminali, con giustificazioni da parte della sinistra di Parenzo, eccetera, eccetera. E poi volevo dire a Parenzo che il signor Toni Negri si becca una pensione adesso dal Parlamento che è pari a 6.000 euro al mese. No, non credo che sia 6.000, comunque, insomma, 2.005 credo. Beh, comunque, il signor Toni Negri si becca quello. Per cui volevo dire... E poi un'altra cosa, signor... Chi è questo qua? Io sono di religione... Io rispetto Silvia, la sua religione, la abbandono, rispetti la mia. La abbandono, grazie. La abbandono. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue come vampiro. Silvia da Pesaro, buonasera Silvia. Silvia? Sì, sono qua. Pronto? Dica. Allora, oggi ho visto la presentazione del nuovo movimento di Ingroia, che già è stato trombato alle elezioni, quindi già ci vuole una bella faccia a ripresentarsi. Sì. E poi si è presentato con una gigantografia di Che Guevara alle spalle. Cioè non l'ho notata questa cosa, una gigantografia di Che Guevara alle spalle, una cosa attualissima, una cosa di grande attualità. Attualissima, proprio c'entra molto soprattutto con l'Italia, con la politica dell'Italia, i problemi dell'Italia. Ma ognuno sceglie quello che vuole nella vita. Ma visto che lei e anche Parenzo, insomma, avete una bella lingua affilata, volevo sapere proprio il vostro parere, perché a me sembra uno proprio fuori di testa. Ma che me ne frega a me di Che Guevara dietro Ingroia? Abbia pazienza. La cosa più incredibile di oggi è che, per carità, poi ognuno è legittimato a fare qualsiasi movimento politico. Certo, per carità, ma volevo dire proprio la simbologia, perché i simboli sono importanti comunque, no? Quindi si presentano come un movimento nuovo, a parte che quell'altro aveva già 2 mesi, già morto, trombato subito, così. E poi si presentano con questo simbolo. Cioè, non credo che si presenteranno col simbolo di Che Guevara questa azione civile. Però comunque vado a guardare l'immagine, c'era questa gigantografia. La cosa più incredibile di oggi è che Ingroia dice: io torno in magistratura solamente se mi occupo di quello mafia. Proprio dimostra la sua intelligenza, insomma, la misura della sua intelligenza. Grazie. Zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue come vampiro. Ed è con noi Gianfranco Rotondi, PDL, buonasera. Buonasera, salve. Come andiamo? Benissimo, grazie. 5 Stelle prende distanza da Becchi in merito all'uscita odierna del professor Becchi. In diversi mezzi di comunicazione i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle prendono nettamente le distanze da tutto quanto proferito dal docente, eccetera. Troppo comodo. Lei lo definirebbe un cattivo maestro, il professor Becchi, dopo quello che ha detto ieri alla Zanzara, signor Rotondi? Guardi, viviamo una fase di follie diffuse. L'unica cosa a cui mi oppongo con decisione come democratico, e se vuole aggiungere anche come democratico cristiano, che quindi ha un senso delle istituzioni, sì, guai ad associare la violenza al 5 Stelle, perché questo innanzitutto è ingiusto per la cronaca, perché il 5 Stelle è un movimento pacifico e pacifista, è un movimento parlamentare, esprime qualche centinaio i deputati e senatori che sono eccellenti colleghi, composti, civili, che svolgono le loro funzioni ben al di sotto del grado di violenza che tradizionalmente ha l'aula. Però quindi, scusi un attimo, diamo per una volta a questo paese delle impressioni e delle comunicazioni rassicuranti. Però scusi Rotondi, il Parlamento vive anche con i 5 Stelle. D'accordo. E la violenza non c'entra nulla col Parlamento e con le cose che si però scusi un attimo, Grillo, il capo dei 5 Stelle non è che è il capogruppo alla Camera o il capogruppo al Senato, si chiama Beppe Grillo, il capo politico anche dal punto di vista quasi giuridico per la presentazione della lista, cioè il capo politico si chiama Beppe Grillo. Ora questo signor Grillo, come lei sa, lei l'ha più volte criticato, parla di nei mesi scorsi ha parlato di morti, le coordinate del Parlamento, eccetera eccetera. Beh, insomma, forse qualche responsabilità ce l'ha, è una domanda o no in quello che è accaduto, in quello che sta accadendo? No, assolutamente no. Bossi ha detto i fucili padani divideranno l'Italia, noi abbiamo detto che avremmo fatto la rivoluzione talvolta, anche Togliatti disse che avrebbe preso De Gasperi e i democristiani a calci nel culo, ma nessuno ha mai detto che hanno stimolato terrorismo e violenza. La lotta politica è fatta anche di frasi forti, ma questo non significa affatto che la conseguenza sia la violenza. Dunque lei dice Grillo, qualsiasi cosa dica, anche la più tra virgolette violenta contro il Parlamento, contro sono i politici, sono parole, ma anche parole la commissione pietre, d'inchiesta, si ricorda la commissione? Le parole sono pietre, le parole vanno usate con più parsimonia. Un democristiano non direbbe mai le cose che dice Grillo, però detto questo i democristiani hanno convissuto con avversari più duri di Grillo, dall'uomo qualunque alla sinistra, alla destra, i fascisti, i comunisti, e hanno digerito tutto, quindi avanti così. E dunque avanti Grillo, da un certo punto Grillo può dire quello che vuole, nessuno lo può accusare fino in fondo. Io che certo non posso essere sospettato di simpatie per Grillo, lui svolge una funzione preziosa, perché questo è un paese che è stato eccitato alla radicalità, ma non da Grillo, dai padroni dei giornali che hanno detto a un certo punto voi dovete dare in testa alla cassa. Oh, ecco, questo è interessante. L'altra cosa le volevo chiedere, secondo lei Grillo svolge una funzione importante, perché questa protesta radicale la canalizza nel voto e la porta in Parlamento, ed è un inno alla democrazia. Benissimo Rotondi, infatti io qua volevo arrivare, perché secondo me almeno se la conosco bene, dal punto di vista politico penso di conoscerla bene, secondo lei è più responsabile magari di qualche gesto inconsulto il libero la casta piuttosto di Grillo, è così o no? Lei sa che c'è Manzoni e c'è il manzonismo degli stenterelli, cioè? Il libro di Stella e Rizzo io non solo l'ho comprato ma l'ho apprezzato e l'ho pure regalato. E allora? Perché è un libro fatto bene. Il problema qual è? Che in Italia se un giornalista scrive un bel libro e documenta anche delle cose interessanti, ne escono altri 100 che pensano di essere come quello lì, e allora si va nel manzonismo degli stenterelli. Tutti i giornali, giornaletti, giornaloni, televisioni. Vabbè, se è più è facile così. Di tutti a fare trasmissioni contro la politica. Intanto Becchi dice scusate un attimo, Becchi dice io mai più in TV, chiudo qui. Non so dunque se si presenterà stasera a servizio pubblico, questo sta dicendo il professor Becchi. Comunque, al di là di questo, lei dice che hanno fatto per arrivare al sodo, Rotondi, il signor Preiti è stato istigato, semmai sia stato istigato da qualcuno, semmai fosse stato istigato da qualcuno, è stato più istigato dal coro contro la casta che da Grillo? Io su questo voglio dire che ho un'opinione un po' diversa. Nell'ordine, l'attacco alla casta sul piano fisico non nasce con Preiti. Io ogni giorno scanso un energumeno che si scaglia, che dice una parolaccia. Lei pensi che ho fatto uno studio proprio antropologico. Ci sta l'intellettuale di sinistra che si raschia la gola, fa il tossone, il colpo di tosse, ti vede passare e sottolinea lo sgradimento fisico, quasi olfattivo, di vedere un reazionario a tiro. Si schiarisce la voce, fa il colpo di tosse e fin qui. Vabbè, va bene, nulla questo. Poi ci sta quello che dice ladro, farabutto, tu il porci, noi la destra, e allora poi ci sta quello che ti augura di morire, di crepare, sì, che chiama in causa le mamme, le figlie, le sorelle, e c'è quello che si muove con le mani. E allora una volta, racconto solo questo, sì, mi si avvicina uno e mi prende letteralmente per il bavero. Dopodiché dice, perché lei deve tenere la scorta? Dico, oh, scusa, ti stai facendo una domanda e come lo si sta dando la risposta? Peraltro io non ho bisogno, come dire, di tante protezioni, perché me la vedo da solo, nel senso che cerco sempre di... Vabbè, ma questo per dire cosa? Questo per dire che io parlo liberamente, perché il complesso non ce l'ho di essere popolare, me ne frego, sì, della popolarità, quindi dico cose impopolari. I miei colleghi che sperano di essere più popolari non hanno il coraggio di dire che noi viviamo da 2 anni in una guerra non dichiarata, in cui non dobbiamo dire che ci chiamiamo onorevoli, dobbiamo salire sui treni nascondendoci, tutti che ci gridano addosso che guadagniamo troppo, tutti che dicono la verità. È che tutto questo, sì, in parte è effetto della campagna giornalistica, ma in gran parte è effetto di chi ci sta dietro, perché è ovvio che i giornaloni e i loro padroni, per fare gli affaracci sporchi che si fanno nell'unico paese del mondo in cui non ci sono editori puri, ma gente di tutti i generi. Però facciamo nomi e cognomi, Rotondi. Non lei sta dicendo nomi e cognomi perché non abbiamo soldi per fare le cause. Vabbè, ho capito, lei. Però scusi, allora teniamoci in modo che nessuno ci porta in tribunale. Nel paese in cui il palazzinaro che vuole condizionare il piano regolatore si fa il corriere della sua città, del suo paese, il signore che ha grossi interessi, dalla scalata al grande giornale, sì, così le sue mani in pasta si allargano meglio, sì, a un certo punto sta gente qui che c'ha bisogno che ci sia una politica forte o una politica debole. Lei sta dicendo però andiamo per io... avere una politica debole bisogna sputtanarla. Diciamo però che lei sta dicendo se io metto il popolo Preiti da chi è armato nella sua idea Preiti poi da chi vengo a Preiti, ma se io metto il popolo contro gli eletti qual è l'effetto? Che gli eletti non contano più un cavolo, non rappresentano niente, ho capito, non sono credibili. Dunque allora al posto della volontà del popolo c'è la volontà dei giornali e dei loro padroni. Dunque questi sono quelli che hanno armato il possibile attentatore. Mi permetto di dire una cosa molto forte, e cioè che il giorno dell'insediamento del governo, sì, simbolico quant'altri mai, sì, noi usiamo dire sempre le frasi ad effetto, l'Italia, sì, ci guarda, il mondo ci guarda, sì, beh, sicuramente quel giorno lì l'Italia ci guardava e il mondo ci guardava. Sì. Il giorno in cui si insedia un governo di solidarietà nazionale, sì, che rilancia il sistema paese e che naturalmente ha una classe dirigente giovane, credibile, addestrata, il ministro che... degli interni, noto per aver scritto un bellissimo libro contro la mafia, un signore che arriva sotto Palazzo Chigi e spara, può essere un pazzo, può essere un isolato, ma può essere anche un signore che, mi pare strano, va lì, spara, poi mette la pistola per terra, alza le mani, si fa prendere. E allora lei che pensa? Il dubbio che ce l'abbia mandato qualcuno a me mi viene. E cioè chi però? Non lo so, io so che ci sono in Italia delle organizzazioni abbastanza consolidate, con tradizione centenaria, che quando devono lanciare un segnale sanno che fare. No, però lei sta dicendo una cosa piuttosto pesante, Rotondi. Lei è parlamentare della Repubblica, è espressione di questa maggioranza, potrebbe diventare anche sottosegretario. No, non... per carità di Dio, io al governo ho già dato. E vabbè, comunque, insomma, potrebbe anche essere, non è escluso. Lei sta dicendo che non crede, che non crede. A mio avviso, gli inquirenti fanno benissimo ad approfondire le indagini come stanno facendo, perché è possibile che questo episodio sia stato un avvertimento mafioso. Bah, e quindi lei bisogna essere molto attenti se si tratta di un matto, di un disperato. Lei non ci crede, però. Lei non io ci crede. Non faccio nessuna congettura astratta. Beh, no, ma è inutile congettura astratta. Sono delle indagini in corso. Vabbè, ma quello lo sappiamo. Che vengano fatte al massimo livello di prudenza e di efficienza, fanno bene a verificare se si tratta di un isolato o dell'espressione di un avvertimento criminale. Vabbè, ma mi sembra che lo dice. Scusi, già dicendolo lo sospetta. Se lo ipotizza, che lo sospetto, se no mica glielo dico. Appunto, vabbè, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un secondo con Gianfranco Rotondi, che ci ha fatto questa dichiarazione esplosiva. Secondo lui potrebbero esserci la mafia, la camorra, l'andrangheta, non lo so, dietro Preiti. A tra poco. La Zanzara. Bomba la zanzara, caro Parenzo. No, bomba qua, per carità, non vi preoccupate qui, la bomba è quella che è esplosa oggi nel Movimento 5 Stelle, che dopo tantissimo tempo deve dire non è nostro ideologo, al povero professor Becchi, che ha semplicemente espresso in maniera colorita le sue idee qui alla zanzara ieri. Beh, allora io voglio difendere il professor Becchi, perché è fatto così, usa le parole, sicuramente un personaggio pacifico, non ha istigato a nessuna violenza. Beh, faceva una sua analisi contestabile, ovviamente, e ha detto non lamentiamoci, ha anche detto stavo scherzando, però in questo caso la parola stavo scherzando, quando si evocano i fucili diciamo che non vale più, non lamentiamoci se qualcuno poi prende i fucili dopo che hanno nominato un altro banchiere. Io voglio difendere a spada tratta il professor Becchi, che viene invece attaccato soprattutto da quelli del 5 Stelle, che mai fino adesso hanno preso le distanze da lui, mai. Beh, hanno capito la gravità della cosa. Ma hanno capito che il giocattolo sfugge di no, mano. No, sono paraculi, questo è un po' diverso. Anche è vero. E Rotondi, che è un signore democristiano, giovane però democristiano, sa che cosa vuol dire questa parola. Vabbè, lei però non può lanciare la bomba così. No, mica ho lanciato bombe. Non cominciamo, perché dopo mi devono attaccare pure a me domani. No, però lei dice, insomma. Io lancio un dubbio. Beh, un dubbio, Rotondi. Questo signore probabilmente è una persona sofferente, disperata. Vabbè, per d'accordo. Carità, non lo voglio giustificare, sì. Però spero che sia così. Ecco, perché mi inquieta di meno. Nel senso che posso capire il gesto di un disperato, e se è così lo archiviamo come un bruttissimo episodio, ma fine a se stesso. Devo dire però che, siccome è arrivato fin lì, sì, l'operazione l'ha portata a termine, ha messo, sì, la pistola a terra, cioè bisogna approfondire che non ci sia dietro altro, ma soprattutto poi qua si vede benissimo che non è che tentava di andare dai politici, ha sparato subito in testa al carabiniere. Voglio dire, a me sembra un atto che è giusto sia oggetto di un'indagine molto più approfondita, e da questo punto di vista sia le forze di polizia che i magistrati che stanno indagando, secondo me, vabbè, non stanno praticando un eccesso di zelo, scusi, si stanno muovendo come, sì, è giusto che sia. Rotondi, scusi un attimo, a proposito di un'altra vicenda che riguarda l'IMU, no? E forse riguarda più di vicino gli italiani, voi non è che potete pensare di avere il governo monocolore, però, perché è vero, Brunetta dice non solo ci sarà l'eliminazione ma anche la restituzione. Cioè, è un governo di coalizione, cioè, o è tutta fuffa. Brunetta è il capogruppo del nostro partito e ha detto l'opinione nostra, poi è scontato che la linea del governo è una mediazione tra tutti, ecco, per cui lei non è che dice o IMU o morte, immagino, no? Noi lo dobbiamo dire, poi magari tra la morte e la vita ci sta, come dire, un benessere con qualche linea di febbre. Certo che se ci fosse lei al governo, Rotondi, sarebbe tutto un compromesso continuo. Io ci sono già stato, quindi. No, sarebbe tutto in questo stato governo, ci sarebbe tutto un compromesso continuo, diciamo, come dovrebbe, come deve essere. Guardi, governare è un grande onore, ma anche faticoso. L'onore mi resta, la fatica adesso è meglio che tocca agli altri. Ma lei è sicuro che non è sottosegretario niente, Ci mancherebbe, uno che è stato ministro, non credo che debba poi ridursi a fare il sottosegretario. Vabbè, adesso non la butti così male. Comunque lei bisogna che ognuno abbia rispetto della propria storia, cioè di quello che ha già fatto nella vita. Scusi, ma la prima busta paga è arrivata? La cosa più importante, sì, in generale, sì, è che uno non si vuole fare sempre le stesse cose. Nella vita politica bisogna anche cambiare. Però scusi un attimo, Rotondi, la prima busta paga è arrivata? Quella arriva tutti i mesi, io sono uscente, quindi. No, da parlamentare è arrivata la prima busta paga del nuovo Parlamento? Ce l'ha sotto mano per caso, no? Ma io penso che sia uguale a quella dei mesi precedenti, no? Non mica cambia. È adeguata secondo lei? È giusta, adeguata? La busta paga si compone di tre voci. Sì. Una finanzia il soggiorno a Roma, e ha visto anche i grillini dicono Gesù, sentiamo coi conti, perché, sì, stando fuori la si vede, sì, in un modo, stando dentro si capisce che, sì, le case costano 2000 al mese, sì, che i ristoranti si pigliano 50-100, sarà bella la mensa ma la sera chiude, e se vai alla mensa della camera a 8 stai a spasso, e quindi uno, vabbè, è giusto che vada, non è una tragedia, a mangiare un panino, non è una tragedia, ma voglio dire, quello che ti sono, te lo spendi, è finita lì. Poi ci sono 3.700 euro che servono per i collaboratori, sì, come se vuoi tenere tutta nel collegio e a Roma uno che ti risponde al telefono, non c'è due dubbio. Persone servono e se la mangiano tutta, restano i 4.000 euro dello stipendio del deputato. Ma lei ce la fa? Se sei un giovane, cominci allora, sei single, sei ricco. Nel caso di altri che hanno famiglie, io ho tre figlie, ci sta un ministro, ho letto da qualche parte, che ha 9 figlie, sta messo 3 volte peggio di me. Ricchi non siamo, ecco. Ah, ricchi bene, non tanti siete. Sì, ce la caviamo molto meglio della gran parte degli italiani e questo ci dà grande responsabilità e anche però grande ricchi popolarità. No, ricchi non siete. Se parliamo di ricchezza, no, è ingiusto ed è una attività questa sì sovversiva, dire che il deputato è ricco. Ecco, ma chi un l'ha po' fatto? Privilegiati, sì, però. Beh, un po' privilegiati. Un po' chi l'ha fatto aveva uno scopo. Ho capito, ma di chi l'ha fatto? Quelli che adesso, quelli che hanno aizzato contro i politici. Quelli che hanno aizzato. Stavo dicendo una cosa volgare, no, la sono girata. La dica, la dica, la dica. No, diciamola più elegantemente. Il loro scopo era di dimostrare che eravamo una manica di mangiapane a tradimento. E poi forse avevano in mente di far scendere in campo qualche campione di virtù. Vabbè, quello l'abbiamo già detto più volte. E invece del campione di virtù è arrivato Grillo. E io che vi devo dire? Siccome sono deputato di Napoli, ve la voglio dire in napoletano. Diciamo. Se non ci stessero i fessi, non campassero i dritti. E quindi Grillo è stato il dritto che ha campato sulla fessaggine di chi si è inventato tutto questo attacco alla politica. Parenzo, che c'è? No, voglio dire a Rotondi che questa idea che Rizzo e Stella hanno scatenato nel paese. Rizzo e Stella sono stati due giornalisti che hanno imbroccato un bel libro. Non sono loro gli autori dell'anticasta. Ma hanno scritto cose vere o no? Questo è perché sì, non avete fatto assolutamente nulla. L'ho già detto, anzi. Le cose migliori le hanno scritte fuori del libro, dopo, ma vi dovete articoli. Qui scusa, stiamo Rotondi parlando di due professionisti di primissimo piano. Ho capito, ma lei non si vuole con voi stessi se non avete fatto nulla dall'uscita di quel libro. Adesso lasciamo stare il libro, ma i primi responsabili di questo libro siete voi. Si parlava della paga dei deputati, ma come no? Si parlava di alcuni eccessi. Vabbè. E in altri casi si esageravano delle cose. Un'ultima anche cosa. Per una finalità letteraria, perché è chiaro che un'ultima cosa, Rotondi, che un'ultima cosa. Costa poco alla Buvette. Sì. È bello scrivere in un libro e far vendere le copie, sì, ma sì. Se spiega agli italiani che la crisi è causata dal caffè dei deputati che costa poco, li prendi per culo. Un'ultima pesi. Un'ultima cosa, ma Berlusconi se la merita la presidenza della convenzione? Berlusconi è un padre della patria, sia che se la prenda la presidenza, sia che non gliela diano. È uno che da 20 anni segna l'architrave del sistema politico, gli storici si occuperanno di lui molto più dei cronisti, che se ne sono occupati molto. Non è che questa presidenza aggiunga o tolga qualcosa al suo ruolo nella storia italiana. Ma deve essere risarcito in qualche modo? Di qualcosa? Ma figuriamoci, è una disponibilità, non ha mica bisogno di risarcimenti. Vabbè, che ne so. Al limite posso dire che Berlusconi vuol chiudere la sua parabola politica con una stagione di riforme. Siccome io che lo conosco vuole fare politica per altri 50 anni, punta sull'unica cosa che gli garantisce di stare al potere 50 anni, perché in Italia le riforme non si fanno mai, quindi una convenzione sulle riforme durerà 50 anni. Tra l'altro per me è totalmente inutile perché ci sono le commissioni. Grazie, grazie onorevole Rotondi, grazie, pubblicità, pubblicità. La Zanzara. Il fatto che è di colore per te è un problema? No, basta che resti a casa sua. A casa sua dove? In Congo. Finalmente abbiamo una ministra di colore per la prima volta nella storia della Repubblica. Ministra all'integrazione, mettitela via. Ma scusa, mettitela un cazzo te, mettitela via. Mettitela come via. Puoi dire tu una cosa del genere quando non sai nemmeno come ha fatto questa arrivare in Italia? A casa mia è un razzista, a casa mia. Ma io sono razzista, non mica mai negato di essere razzista, stronzo. perché per te non è stato giusto fare un ministro di colore? Ma perché non è una persona che può dare una garanzia di come è arrivata in Italia? Ce lo spieghi la signora come è fatta arrivare in Italia? Ma sarà arrivata attraverso una borsa di studio, che ne so, è diventato... Ma chi te l'ha detto? Ma com'è arrivata? Con i barconi, com'è arrivata secondo te? Ah beh, per conto mio ci sarà sempre stato il solito gioco della Caritas. Natale da Rimini, 800 24 00 24. Questo è Erminio Bosso su Chieng. Continua la follia leghista sul neo ministro dell'integrazione Natale da Rimini. Oggi è morto il mitico catalano, il filosofo di quelli della notte. Lo vorrei omaggiare in qualche modo, non riesco. Adesso vediamo. È uno dei miei programmi preferiti in assoluto della mia giovinezza. Basta con queste cose. Natale da Rimini. Pronto? Sì. Avevo un messaggio, sparate a Becchi. Sparate a Becchi? Sì, bravo Natale. Ecco, no, è nella sua logica, Come è nella logica del Becchi. In che senso? Naturalmente scherzavo, però sparate a Becchi. Sono gli stessi discorsi che fa Becchi. Però scherzavo, stia tranquillo, scherzavo. Vabbè, ho capito, però non è che Becchi dice bisogna sparare a Natale da Rimini. Guardi, io ho visto, perché ho l'età, la gente che si è rovinata per i cattivi maestri come Toni Negri. E si cominciò così? Sì, beh, no, io non lo farei mai, però intanto giustifico. Allora, se l'avessero ammazzato, tanti giovani non si sarebbero rovinati. Sparate a Becchi, naturalmente sto scherzando, Guarda che su questa vicenda un tweet assolutamente definitivo lo ha fatto poco fa il grande Alberto Statera, che è un editorialista di Repubblica. Avanti. Che ha scritto una roba, tu appena senti editorialista Repubblica? No, appena sento persone che la gente non conosce mi dà fastidio, dai forza. Ho detto è una firma di Repubblica, si chiama Alberto Statera, impareranno a conoscerlo, sì. Che ha scritto: l'ideologo Grino Becchi evoca i fucili come Bossi 20 anni fa, poi vennero i diamanti e gli yacht. Che mi pare, come dire, assolutamente definitivo. Una puttanata. Rispetto a tutto. Grazie Natale. Massimo da Milano, buonasera. Detta molto bene invece. Massimo, no, era quello di prima. Franco da Cuneo. C'è Massimo? No, ragazzi, su, sveglia. Buonasera. Chi è? Ascolta, sono Massimo da Milano. Vada. Ciao Giuseppe. Ascolta, io volevo dire una cosa. Che se la gente conoscesse il meccanismo del MES, del Fiscal Compact, delle emissioni a debito della moneta, altro che un preti. I carabinieri sparerebbero a quei grandissimi figli di puntini puntini che ci governano. L'economia gestisce il paese, l'economia non è fatta dai politici ma dai sistemi finanziari e monetari. Un anno fa la Banca Centrale Europea sì. ha stampato 500 miliardi di euro e li ha prestati all'1% le banche, che le hanno riprestati al 7% agli stati. Questa cosa, così semplice, farebbe incazzare anche i santi. E chiunque il giornalista come lui dovrebbe informarsi e spiegare. E poi, se lo sa, annullare i preti, perché preti ha sbagliato solo una cosa, e se l'è presa con due disgraziati, i carabinieri, perché sono lì, che devono pagare sul mondo. Perché chi se la doveva, con chi se la doveva prendere, scusi Massimo? Con chi in questi anni ha avallato il sistema monetario gestito da persone a noi sconosciute, la BCE. Voluta, che cosa doveva fare? Scusi, gentile. Sì, vabbè, il signoraggio bancario, eccetera, eccetera. Scusi. Aspetta, tu hai approfondito questa tematica? No, scusa, Massimo, scusami un attimo. Massimo, dunque, per arrivare alle conseguenze di quello che dici, siccome non se la doveva prendere col carabiniere, verso chi doveva rivolgere la sua pistola il signor Preiti? Verso chi in questi anni? Ma verso chi? Dimmi verso chi? Era il governo. Monti, vogliamo parlare secondo Monti? Non ho capito, doveva sparare a Monti? Doveva sparare a Monti, allora, secondo te? No, allora ascolta, io ho una figlia, una moglie, ho un lavoro, ringraziando Dio, però nonostante questa mia agiatezza conosco gente che veramente sta facendo mille sforzi. Sì, ma lasciamo perdere questa roba. Massimo, voglio capire una cosa. Secondo te, siccome hai detto ha sbagliato a sparare un carabiniere, dunque non è sbagliato sparare? No, c'è gente che... allora, magari non è il caso di Preiti. Ma perché uno non dice problemi subito? Perché uno non dice subito chiaro e tondo sparare è sbagliato, punto e basta. Allora, anche allora si parla così perché noi ci... Ma perché siamo lei è malato, perché lei è malato e la pensa alla fine come questi qua, come questi qua. Un attimo solo. Ma tu sei malato, hai detto che bisogna sparare contro questi della BCE, contro chi è causa del disastro italiano. Guarda, se me l'avessi un cazzo da perdere lo farei. Ah, lo vedi? Lo vedi? Io non c'ho le palle, se non avessi un cazzo da perdere lo farei. Allora, voglio leggere, lasciami solo un attimo, Massimo. Voglio leggere il volantino, una parte del volantino che oggi hanno ritrovato in Val di Susa per capire a che punto di follia arrivano le persone. Un uomo rovinato dalla crisi si è procurato un'arma, ha preso un treno e si è diretto nel luogo simbolo dei problemi di tutti, il palazzo del governo. Un essere umano ha lucidamente individuato i responsabili della sua miseria e ha preferito rivolgere l'arma contro i suoi oppressori, cioè i carabinieri, una volta tanto non contro se stesso. Di fatto, da ieri, anche i politici e i loro cani da guardia iniziano a cagarsi sotto, perché Luigi Preiti ha semplicemente fatto quello che tutti dicono in ogni buon bar d'Italia. Ha soltanto accorciato la distanza tra il dire e il fare. Il suo gesto non è affatto sorprendente. Quel che è davvero sorprendente è che sia ancora un gesto isolato. Solidarietà di pelle a Luigi Preiti. Gli spari sopra con un tizio con un cappello tipo western e una pistola in mano. Ecco, quelli che hanno scritto questa cosa, caro Parenzo, andrebbero come? Oh. Andrebbero presi, identificati, di conseguenza portati in questura, messi per sicurezza un paio di notti dentro un carcere non di massima sicurezza, ma in attesa di essere, che poi il GIP. Vabbè, non sai che dire, tutto. non sai che dire, traffico. La Zanzara. Segnalatemi qualcosa su Catalano, già arrivano delle segnalazioni via Twitter per questo omaggio che vogliamo fare a Massimo Catalano prima della fine del programma. Lucio Dalla che canta, lui suona una chicca dei Flippers, ci segnalano. Banni, Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, lei mi è molto simpatico, però purtroppo devo fare un'osservazione. Prima di tutto volevo informare il signor Parenzo che insomma le pastigliette non sono pastigliette, vanno prese per via non orale, bensì sono delle supposte. E quindi quali pastigliette? Se si vuole accomodare fuori c'è già il pulmino della neuro che lo sta aspettando. Ma di quali luogo, pastigliette parlo? Vorrei fare un appello a tutti gli ascoltatori della Zanzara, perché era una bellissima trasmissione, sì. Ma dato che i partecipanti vengono trattati come degli stracci, delle pezze da piedi, una cosa invicibile, chiedo semplicemente a tutti questi ascoltatori di fare una colletta, di tirar fuori un centesimo e o vi diamo una bella cifra e smettete di fare questa trasmissione, o altrimenti faremo causa ogni volta che offendete uno dei vostri ascoltatori. Sì. È un'idea però, non è male. È un'idea. Lei ha detto che guadagna 200.000 euro. Ma saranno cazzi euro miei quelli che guadagno? Ma che vuole lei? Ve l'ha detto per radio. E allora qual è il problema? Non è nessun problema. Ha qualche problema lei? Ha qualche problema col denaro? Possiamo raccogliere qualcosa che le può servire per 10 anni. Ha qualche problema col denaro? Il rispetto è una cosa molto importante. Voi ve ne sbattete le palle della gente che vi chiama. Ma non è vero. Vi chiama con delle idee serie. Ma lei che idea ha, per esempio? Mi dica. Io non è questione di idee, non voglio entrare neanche in merito agli argomenti. Mi fa schifo di come trattate la gente, che purtroppo può essere gente non colta o molto colta, ma quando a lei non va bene o viene fuori il mister Parenzo che dice queste cose della pastiglia, che non ha preso la pastiglia, queste cose, non è rispetto delle persone. No, è il cambio della cura. Ah, chi? Il cambio della cura. Lei pensi a infilarsi le supposte, non il cambio della cura. Sì. Perché lei prende per questo. Ma non sono orali, dottor Parenzo. Cioè, lei ha avuto una grande idea. Questa idea di chiedere un centesimo ad ascoltatore per mandarci via, cioè una sorta di TFR mandarti via, anche per far caso se li trattate in un modo villano come state facendo ultimamente. È più di un anno che non si fa altro che offendere o interrompere o fregarsene della gente che chiama. Ma chi l'ha detto? Ma che dice? Sulla gente che vi chiama. Sì. E gli sponsor pagano perché chiamo un sacco di gente, lo capite questo o no? Ma appunto, lo capiamo talmente bene. Spero che lo capisca anche chi sta più in alto di lei. Ma non c'è dubbio, guardi che lo capisce molto bene, caro Vanni, lo capisce molto bene. Lo so che lo capisce molto bene, ma prima o poi ci arriverà. Se no, comportatevi in modo normale, ascoltate cosa hanno da dire. Sì, lei che ha da dire, per esempio? Io non ho niente da dire. Ah, ecco. Ma cosa vuole che le venga a dire? Mi pare chiaro che non ha nulla da dire. Mi interrompe in un secondo. Ma quando mai? Ma che dice? No, no. Ma come quando mai? Lo fate d'abitudine. Quando uno non vi va, più che noia, che noia, che noia, che noia, che noia. Grazie comunque di avermi dato questa possibilità, sì. E spero che molti ascoltatori possono accettare questo consenso di fare mettere un centesimo. Ma sì, ma guardi che noi siamo pronti. Ma siamo pronti col cappello in mano. Gli spettatori che vi ascoltano. Però purtroppo io mi ritrovo al bar la sera, ma Cruciani, quelli che fino a qualche anno fa l'apprezzavano tantissimo, sono stanchi di sentirla ad agire in questo modo, soprattutto con la spalla che ha. Ma io sono sono qui con il cappello in mano pronto a prendere un centesimo ad ascoltatore, caro Vanni. Però poi non me ne vado, me li tengo. Le faccio tanti auguri e spero che lei abbia una grande fortuna e possa continuare. L'abbraccio fortissimo, caro Anna. Grazie. Anche l'abbraccio fortissimo. Le do anche un bacio sulla guancia. Grazie. Franco da Cuneo, arrivederci. Franco? Eccomi. Allora, io volevo fare un intervento questa sera e poi diventata la trasmissione. Anch'io volevo entrare sull'analisi. L'analisi che è stata fatta dall'onorevole Rotondi sul gesto di un disperato che secondo me non era così disperato, insomma. Solo che Rotondi lui dice ma potrebbe essere la mafia, l'Andrangheta, la Camorra, non capisco perché dovrebbe dare un avvertimento, che cosa. No, invece io che parlo per la mia professione con parecchie persone in questi giorni, tutti mi dicevano, quasi tutti, che questa è la causa dei Crillino, votare i Crillino. Quindi, vabbè, allora... il movente ha screditato e continua a screditare, e lo screditano mica poco, perché noi diciamo che questo governo ha grandi cose davanti, la cosa più cruciale che ha è la legge elettorale, vorranno fare un tipo di legge che li promuove tutti, e contro questa legge, guarda caso, per nessuna alleanza che ci sono i Crillini. E quindi di qui in avanti credo che cosa vuol dire lei che l'attenta... Voglio dire che si cerca di screditare, ci sarà una violenza coloro che non fanno la politica e la partitica secondo come piace a loro, questo è. Vabbè, è chiaro che la Repubblica vive una cosa del genere, quindi bisognerà guardare molto più avanti di quello che vedono i nostri occhi. Vabbè, Antonio da Reggio, no? Che cos'è? Reggio Calabria, Reggio Emilia, dov'è? Antonio! Cruciani, dopo tanto tempo ci sentiamo. Chiuda la radio, per favore, Antonio, non mi faccia infastidire, su. No, non ti infastidisco. Niente, io volevo intervenire riguardo il fatto che c'era prima quel signore che diceva che è un po' mezzo giustificato quel poveraccio che si è messo a sparare. Diciamo che ha sbagliato il bersaglio, perché i carabinieri, poveracci, non c'entravano niente. Ancora? Non ho capito, tu prima di giudicare gli altri devi un po' provare a farlo tu, a non guadagnare una lira, a trovarti in mezzo alla strada e a vedere se poi reagisci nel modo democratico che dici tu o nel modo antidemocratico che dicono gli altri. Mi è capitato di non guadagnare una lira in un periodo della mia vita dopo un'esperienza disastrosa che ho fatto. Mi è capitato, quindi non rompa i coglioni con questa storia. Chi parla? Parenzo. Parenzo, chiuda la radio, genio, professore, chiuda la radio, ancora, abbassi la radio. Per il professore. Totalmente, abbassi la radio invece di fare il buffone, su, Antonio. No, non stiamo facendo il buffone lo fai tu da tanti anni, perché dici sempre stronzate guadagnando 10.000 euro al mese. Meno male, allora qual è il problema, ti rode? Se tu giudichi gli altri ti scoccia? Dalla tua posizione, ti scoccia? Devi scendere un po' più in basso, ti rode? Ti rode? Non è che mi roda, a me no, perché ne guadagno più di te. E allora appunto? È che devi giudicare gli altri che non hanno niente da mangiare. Sì, Io non sto giudicando nessuno, Antonio, non ho giudicato nessuno. Io ho semplicemente detto, semplicemente li pigli dai finanziamenti dello Stato, ma li pigli tu dai finanziamenti dello Stato. Io non piglio nessun soldo da nessun finanziamento. A me lo Stato non mi dà un euro, hai capito? Lo Stato ti dà il finanziamento ai giornali e tu fai parte di una categoria finanziata dallo Stato. Sbagli. Non devo prendere più i soldi. Sbagli. Anche tu hai alle agevolazioni fiscali come partita IVA e anche le radio e i giornali. Sì, le hai anche tu. Stanno fallendo tutti quelli che hanno le agevolazioni. La partita IVA è un... Ce l'hai anche tu le agevolazioni, non ti preoccupare. Le agevolazioni ce le hai tu, che con le mie tasse ti pagano a te per dire quello che è giusto e quello che non è giusto. Ma non è così, ti stai sbagliando. Le tue tasse non mi pagano un cazzo, hai capito? Non mi pagano quando non ha da mangiare. Voi dovete mettere in condizione tutti di mangiare e poi potete parlare. Sì, è arrivato il genio che mette a posto l'economia dando da mangiare a tutti. Di non rompere il cazzo lui, no io. Sì, di moderarsi nel parlare. Sì. È uno scostumato. Ma che è scostumato? È un cretino. Sei un cretino, dice Antonio. È un cretino perché dice sempre stranzate. Non parla mai serio, parla sempre dal lato suo, deve scendere un dal po lato suo, certo, non può, che su, certo che non può parlare dal lato di un altro, dal lato suo. Devo parlare, ma che ne so, dell'italiano deve parlare. Se fa il giornalista deve parlare a livello degli altri, non a livello suo. Antonio, ma del quale lato devo parlare, genio del vocabolario ma italiano? Stai zitto, ignorante. Ma ignorante un cazzo, ci parla dal lato suo. Ma stai zitto, non parlare. Voglio parlare con Cruciani, tu sei troppo ignorante per competere. Traffico, torniamo, che traffico? Borsa, torniamo subito, resti lì Antonio se vuole. La zanzara. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Oh, c'è un genio su Twitter, Parenzo, che si chiama Alessandro, ma sì, dico anche il cognome, va, perché così si presenta, che lavorerebbe per una multinazionale, un tale che si presenta come Alessandro Urso, che scrive: Preiti ha sbagliato bersaglio, doveva sparare a te. Capito? Cioè, a te Cruciani? Sì. Poi l'ascoltatore Vanni ha ragione in pieno, ditemi chi devo versare il mio centesimo. Versate che così incassiamo, Vanni ha ragione, siete due pezzi di merda, un altro via SMS, siete dei villani. E poi ancora, cominciamo a raccogliere i soldi, condivido, datemi il suo cellulare. Ma possiamo dare l'IBAN? Sì, io darei direttamente l'IBAN. Non mi molesta il moschito. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00 24, con la bufera intorno a Mario Borghezio per le affermazioni sul ministro Chieng. Qualcuno propone addirittura l'espulsione dal Parlamento europeo. Pare che ci sia una sorta di raccolta di firme anche qui, fatta da un blogger del Fatto Quotidiano, del fattoquotidiano.it, mirabilmente guidato da Peter Gomez. Abbiamo qui con noi il sindaco di Bigiù della Lega Nord, che è una persona di colore, molto conosciuta, perché più volte è stata invitata, soprattutto quando ha esordito nella sua carica da sindaco, Sandra Marie, detta Sandy Kane. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Come sta? Bene, buona Padania, grazie. Un po' meglio. Buona Padania, che Parenzo, che dici? Perché pensavo che dicesse che lei lo dice, che buona Padania, signora Kane? Sì, perché no? Non c'è nessun problema. Dove si trova Bigiù? Lei si sente padana? Sì. Dove si trova Bigiù? In provincia di Varese, vicino al confine svizzero. Oh, per cui insomma siamo proprio, no, nel nord Italia. Nord Italia, nell'estremo nord. Senta, ma io partirei. Non sarebbe un po' una mosca bianca, cioè bianca, nel senso, no, una mosca. Beh, mosca bianca caso... non è la cosa più appropriata. No, in questo caso. Volevo dire una mosca nera dentro un partito verde. No, guarda che ci sono altre persone, c'è Tony Wobi, che era candidato alle regionali in Lombardia. Sì. Ci sono altre persone. Ecco, però il suo partito si è un po' scagliato contro questa signora Chieng, il ministro. Innanzitutto, il ministro dell'integrazione è il suo ministro, signora Kane? O non lo sente come suo ministro? No, ma poi spiego perché. Perché io sto notando che sono anche stufa, di sì. che improvvisamente danno leghisti perché è uguale razzisti, eccetera. Mm. No, avessero messo lì, in, non so, una bionda, occhi azzurri o una tipica mediterranea, con in questo momento la Lega, ma anche a me che sono straniera, sono mullata, non meticcio perché mio cane è meticcio. Lei è mullata? Dico, sì. Perché quindi mia mamma è italiana, mio papà era afroamericano, sì. ecco, non è importante, cioè io oggi mi leggo sui giornali, un signore anziano nel paese qui di fianco che l'hanno trovato che era nei rifiuti dell'umido e mangiava perché non aveva da mangiare, ma ci rendiamo conto? Ma che c'entra questo adesso però? Ma c'entra, perché no, stiamo allora, parlando di un'altra cosa, io le ho fatto una domanda, la signora Chienghe, ministro della integrazione, è la sua ministra, sì o no? No, perché non, l'integrazione non serve. No, non è la mia ministra, perché l'integrazione in questo momento non serve. Ma lei è italiana. Cioè, dunque, lei è il governo Letta, è il suo governo, e la signora Chienghe è il suo ministro. Ho capito, ma l'integrazione non serve in Italia in questo momento, servono altre cose. E per me non è mio ministro, ma non perché è di colore, mettiamolo in chiaro e questo. E perché allora? Perché a me non piacciono le sue esclamazioni, cioè io posso dire che per esempio anche quella pari opportunità non serve in questo momento. Gli italiani le esternazioni hanno bisogno di altre cose. Per esempio, che ha detto per esempio le esternazioni, che cosa ha detto di così? Io sono contrario alla cittadinanza ius solis. Sì. E come ha detto che vabbè, quello però uno discute, però da qui a dire non è il mio ministro, io vorrei capire qual è la cosa psicologica che c'è sotto questa roba qui. A me è psicologica, per me l'integrazione non serve in Italia. Ma è stato sbagliato fare un ministro di colore? No, a me non interessa, è lei, ma c'era un altro, io già detto, mediterranea, bionda, eccetera, che il ministro di integrazione in questo momento non serve, agli italiani servono delle risposte ben precise. Cioè, oggi D'accordo, però non è che esiste solo il ministro dell'economia, il ministero dell'economia, ci sono i ministeri di tante cose. Adesso, anche ci sono se... altri ministeri che sono stati criticati anche dalla Lega, che posso che condivido. Buono, però scusi, mettendo... mi pare no, bizzarro, scusi, mi pare scusi. Bizzarro, signora Kenne, lei è sindaco di Viggiù, di colore, sì. come dice lei, mulatta. Sì. Tutta la Lega, moltissimi esponenti della Lega, non tutti per fortuna, se la prendono col ministro perché sostanzialmente è nera e di colore, diciamo la verità. No, allora, io di questo non l'ho sentito, forse uno, ma adesso tutti state esagerando. Beh, scusi, allora, ma l'ha sentito Borghezio, l'ha sentito o no? No, non l'ho sentito. Allora, se il ministro, allora, il governo Bonga Bonga, è una casalinga, eccetera, eccetera. Se vuole glielo faccio sentire. No, allora, se una dice che è una casalinga, scusate, gli insulti che stiamo beccando tutti, cioè, allora, io sono la prima persona che non insulto mai nessuno e non mi permetto, ma in questo momento ho sentito anche gli insulti che sono arrivati, non so vabbè, perché. Quello, noi siamo abituati. No, vabbè, a me non piacciono, quindi io non insulto nessuno. Se qualcuno insulta, non sono d'accordo, però mi sembra che fino a ieri, quando Berlusconi ha detto che Obama era abbronzato, è stato insultato. Guardi che io, la Boldrini che dice che ci sono quelli di estrema destra, quando io sono entrata sindaco, le faccio vedere tutti gli insulti che ho ricevuto, però non ho fatto un caso. No, se ma ho capito, uno... signora Kane, però io voglio capire una cosa, siccome ci sono stati degli attacchi molto forti nei confronti ma del ministro... Ma non del colore. Ma no, ma perché indirettamente Zaia non ha dato colore, ma Zaia ancora peggio, perché Zaia ha associato lo stupro ad una persona di colore, perché c'era stato un episodio di un ghanese che ha stuprato una veneta o comunque una due persone eccetera, e ha detto perché non viene a farci visita, a visitare le vittime il ministro dell'integrazione. Non è che l'ha detto a caso, oggi poi si difende in maniera piuttosto rocambolesca il ministro Zaia, l'ha detto perché il ministro Chienghe è di colore e sostiene certe cose sull'immigrazione, magari. Sì, perché lei dice che la clandestinità non bisogna farlo legale, scusatemi, non è giusto. Cioè la legge dice che non è legale, che non è legale in tutto il mondo. Ma non credo che sia a favore dei clandestini la signora Chienghe. Cioè, allora se uno mi dice... Un ministro mi dice che in Italia, ma come in tutto il mondo, quasi tutto il mondo, chi è clandestino è illegale, e mi dice che lei lo vuole mettere legale. Scusatemi, no, io non sono d'accordo. Ma non ha mai detto senza offendere. No, l'ha detto, questo. Scusate, lo sta dicendo dappertutto, su tutti i telegiornali, scusate. Ma non sta dicendo che bisogna accogliere tutti i clandestini, su Io solis non lo voglio, ne possiamo discutere, ma in questo momento. Ma lei non lo vuole, questa è una cosa. Ma scusi un attimo, io penso che siamo democrazia, giusto? Ma certo, io non insulto nessuno, ma il problema degli italiani non è né il ministro dell'integrazione in questo momento, perché allora io dico, cioè non ci doveva essere il ministro dell'integrazione, ma mi spieghi perché? Perché allora io sono un caso particolare, i miei vicini che sono albanesi, che sono inseriti, che i bambini vanno all'oratorio, mi spiegate perché il ministro dell'integrazione? Ma lo stesso posso dire anche da pari opportunità, perché vabbè, come donna dico non sono un panda, pari opportunità. Io voglio capire, scusate, la signora che mettere la... su colore, allora mettiamo su colore, ma e allora alla fine è quello il problema. Se, no, ci fosse stato, è, se ci fosse stato un ministro dell'integrazione bianco, non avreste fatto questa cagnara. Lo dice lei. Ma per come me non no, è questo il problema, scusatemi. Vabbè. Ma scusi, se lei ha sentito, non ha sentito Borghezio, ma almeno il signor Zaia, che ha fatto la polemica proprio indirizzata a quello, evocando quasi che lo stupro viene fatto soltanto da alcune categorie di cittadini. Ma lei in che mondo vive? I giornali li legge? Cosa dicono i dirigenti del suo partito? Lo sente? Cioè gli stupri, oppure sono, no? Gli stupri sono soprattutto fatti da gente di colore, secondo lei, Kane? Molti sono fatti non gente da colore, ma anche da molti clandestini. Ultimamente, visto che vuoi in che ma la maggior parte vivo, degli stupri no, non sono. Allora, lasciate parlare le persone. Ma la maggior parte degli stupri sono degli italiani, come numero. Ma vogliamo andare a vedere i numeri nelle carceri? Allora, i clandestini. Carceri, ma cosa sta dicendo? Scusatemi, allora, o parliamo seriamente. Vabbè, lei cerca di difendere affermazioni che non sono difendibili, ha capito? Cioè, questo è il punto. Beh, per lei, io siamo in democrazia. Cioè, non è la sua ministra, non è la sua ministra. No, perché l'integrazione non serve. L'integrazione perché come ci siamo serve. Integrati tutti quanti, come io, come Tony, sì, come il ministro, come eccetera, non ho capito perché ci serve. In questo momento non serve. Ma lei ha detto, chiaro, che l'Italia è meticcia, la signora Kieng? Sì, ma non è prima non è allora vogliamo parlare politicamente corretti? Non vogliamo parlare perché in Italia anche io, allora quando sono diventato sindaco, mi ha detto sindaco negra o sindaco nero. Allora può essere offensivo. Vabbè. Anche nei miei cittadini, no, scusi, anche i miei cittadini hanno detto, scusi, questi qui scrivono queste cose. Sì. L'Italia non siamo politicamente corretti. Ma Zaia, allora, se vogliamo dirlo, no, allora se vogliamo dirlo, meticcio, se vuol vedere il coso del mio cane è meticcio. Allora è meglio sulla sensibilità. Se vogliamo essere politicamente corretti, in Italia non lo siamo. Va bene, scusi un attimo, ma Zaia non ha detto niente di male? Per me no. No. Vabbè. Non ha detto niente di male, vabbè, che dobbiamo fare? Non ha detto niente di male. Perché, scusi, deve invitare il ministro dell'integrazione ad andare a visitare la vittima? Magari per capire che magari l'integrazione e forse soprattutto i clandestini stanno facendo dei danni, perché un ministro che mi dice che i clandestini non è reato, scusate, in un momento ma non ha detto questo prima. Non credo che abbia detto, allora, scusate, o i giornali dicono no, la clandestinità reato, può darsi che l'abbia detto, non lo so, e allora non è reato, scusatemi, è reato. Vabbè. In tutto il mondo. Io non sono d'accordo, ne vogliamo parlare seriamente, però se vogliamo parlare di colore state sbagliando. Grazie signora Kane, grazie, buona serata. Grazie. Prego. Enrico da Milano, buonasera. Questa qua Cruciani si chiama asciugato, cazzo. Lo so, Enrico, che devo fare? No, ma adesso a parte tutto, ha ragione lei, cioè, non bisogna ficcare una strada chiusa, non bisogna più fare queste cose. Ha ragione, che cazzo devo fare, Enrico? Ogni tanto qua, mi lascio convincere a fare delle robe che non dovrei fare, ma anch'io perché i cittadini questo cile che sono sfigati di brutto, cazzo. Ma chi dice lei, scusi, chi dice? Quelle che è appena intervenute. Lo so, che bisogna fare, è così, è andato così, dai. Senti, torniamo un passo indietro, perché questa cosa qua, cioè, invece volevo trovare la fomentazione di Grillo, perlomeno presunta, per quello che ha fatto quel gesto lì che ha tentato di ammazzare mezzo mondo. Ma bisogna stare attenti. Ma qui c'è, a quinta colonna, c'è la Mussolini che sta litigando con uno, sentiamo. La nostra sicurezza quotidianamente lavorano e che non riesco ad accettare quelli come lei che speculano per un 1% sulla pelle dei servitori dello Stato. È inaccettabile. Lei non mi accetta, ma deve portare rispetto per chi non la pensa come lei. Invece ci sono dei movimenti, e lo vediamo in rete, che non hanno rispetto e che istigano la violenza. Guardi, e questo lei va male per lei, tutti. Io parlo per mio me. Mio caro. Allora, il titolo della trasmissione Quinta Colonna è: si può giustificare la violenza dei disperati? Ma che titolo è? si può giustificare la violenza dei disperati, ma come si fa a fare un titolo così, caro Del Debbio? Non puoi fare come un titolo di pancia, no? Ma si può giustificare la violenza dei disperati? Ma di che parliamo? Se metti il punto interrogativo, si accetta un sì o un no, ma non lo puoi dire tu, fallo dire a qualche pazzo, no? Si può giustificare la violenza dei disperati, ma dai, su. No, che non si può giustificare. Enrico, dai. Enrico? Pronto? Allora? Qualsiasi cosa, qualsiasi gesto lo associa per forza a qualcosa, Cruciani. Cioè? Non è così, non funziona così. In questo momento delicato, politico, sociale, tutto quello che vogliamo. Ma non si può ogni gesto, i giornali associano, devono associarlo per forza a qualcosa. Questa è una fobia, è una cosa. No, ma questo è vero, questo è vero, questo è vero. Hai capito? Cioè, anche tu, l'ultimo intervento del siciliano ti ha portato a litigare alla fine al tuo stipendio per giustificare il fatto che tu sei lì in un momento e lui non ha la lira e tu sei lì e hai uno stipendio. Cioè, la gente è esasperata da qualsiasi cosa, qualsiasi gesto viene diciamo pubblicizzato, perché TV, giornali e cose ci martellano. Io l'altra sera ho scritto a porta a porta avverso, ho detto, ma sei un miserabile. Perché? Non inviti le persone, inviti sempre le stesse facce. Io non ho mai visto la Bonino, non ho mai visto, adesso c'è la Josefa Ide. No, che non è vero, dai. No, ma dai, Cruciano. Ma ci vanno tutti là, su, ci i vanno libri, tutti. Tu leggi i libri di Vespa, sono libri fandonia. Ma quello che c'entra dei libri di Vespa, uno se lo può comprare o non comprare il libro, capito, di Vespa. Ma non lo compri. Ma è una melange. Quello che lui fa in che vuol dire una melange? Che vuol dire un melange? Un misto di tutto, lui infila tutto là dentro. Vabbè, dirmi, traffico, traffico, traffico. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Cristina da Torino, buonasera. Ecco, sì, buonasera. Allora, ci siete riusciti, sangue merda, come diceva quello slogan. Ci siete riusciti. I politici, dopo 20 anni di merda, stanno provocando il sangue. E voi siete contenti stasera perché sangue merda è proprio riuscito questo intento. Questo intento, eh? Mm. Quindi, teatro dell'assurdo. Quasi da mezz'ora che sono al telefono. E allora? Avevo chiamato per dire che mi sembrava proprio stasera una trasmissione abbastanza equilibrata. Tre quarti d'ora al telefono, Rotondi, il grande genio Rotondi, che la congettura più intelligente del momento, c'è la mafia dietro a questo gesto. Intelligentissimo, avete anche fatto complimenti a Rotondi. Sì. L'altra ministra, ministro onorevole della Lega, bravissima, razzista, l'integrazione non ci dovrebbe essere per gli italiani come lei, in Francia, in Germania, in Inghilterra, dove c'è un ministro molti dell'integrazione. Molti sprizza. Quindi, perbenisti, Renzo, la signora perbenista di Milano. Mamma mia, ma... d'ingoia. Molti sprizzi stasera. Ma che trasmissione sta diventando? Molti sprizzi. Siete due pessimisti falsi. Sì, ma con poco, con troppo alcol dentro. Troppo, eh. No, troppo io sono una psicologa. Guardi, quindi. Ma questo non toglie, ciò cioè non toglie. No, anche non toglie, anche, che voi anche, non vi stiate accorgendo. Anche gli psicologi possono drogarsi, E lo fate apposta, dai. Non noi non ci stiamo accorgendo di cosa? Non vi state accorgendo, ma lo state facendo apposta. Di cosa succede in Italia? Sì, vi state stupendo. Noi ci stiamo stupendo di quello che è accaduto. Ma lei ascolta. Dai, parliamoci, ma lei... parliamo tra noi. Sì. Vi state stupendo di tutto quello. Vi state meravigliando. Mm. Ma lo fate apposta? Mm. Io, la signora che si stupisce. Ma lei, dopo lei ci sente ci meravigliati? Pensa che siamo davvero meravigliati? Allora, facciamo una cosa, dai. Adesso io parlo seriamente anch'io. Sì. Allora, voi vi stupite per tutto, ma lo fate apposta? Noi ci stupiamo per tutto. Non sapete cosa stupiamo veramente. Ma veramente non ci stupiamo per davvero, niente. Dai, dai. Non ci stupiamo per niente. Io so che lei stasera ha bevuto qualche bicchiere di troppo. No. Adesso vi spiego il perché. Lei ha parlato di signoraggio. Sì. Di Bilderberg. No, io non ho parlato. Parlate? Io non ho parlato affatto di signoraggio, no, di Bilderberg. No, prima ho aspettato 45. Ho evocato. Allora? Ho aspettato 45 minuti. Lo so, poteva abbassare il telefono se non voleva parlare. Allora, mi sembrava di essere caduta in pieno in una commedia di UNESCO. Mi sembrava abbastanza, diciamo, simpatico all'inizio, dopodiché ho detto no, è un inferno. Mm. Cioè, vi siete, vi state, non non vi state rendendo conto che la gente davvero, ma davvero, adesso parlo seriamente, non ce la fa più. E prendere una pistola o un fucile o qualunque cosa potrà diventare sempre più frequente. Non giustifico, ma capisco. Capisce. Ma come tutti gli italiani, ma anche voi, non dite adesso. Capisce bugie. Uno che prende la pistola. Vabbè, Cristina, ma. Non dite bugie anche voi, che sapete benissimo ma lei che fa la pure, lei, porta a questo. Lei fa pure la psicologa, capito? Questo è il bello. Fa pure la psicologa. È bello. Ma sì, sì. Beh, poveri clienti, poveri suoi pazienti. Ma no, poveri perché davvero, pazienti. Lo fate apposta. Poveri suoi pazienti, state se lei pensa... Recitando. Se lei pensa che, qua, che ci sia qualcosa che state possa giustificare uno che spara la testa di un carabiniere. Dei veri giornalisti sì. Non trattano così la gente, prima di tutto ve l'hanno detto in 7 ma stia tranquilla, sera. Stia tranquilla. E in più non fanno tutte queste noi facciamo cantane. I conti col mercato, siete stia tranquilla. Siete borghesi perbenisti. Io sono borghese, sì, sicuro, sì, quello è sicuro. Perbenista, certo. Perché lei invece cos'è? Proletaria, psicologa proletaria? No, abbiamo. No, no, sono anch'io, forse allora, molto più per bene di lei. E allora stia tranquilla. Quindi, vi dico, non esagerate adesso con la provocazione. Sì. Perché davvero... Davvero, lo dico davvero. Vi state mettendo in una situazione brutta anche voi. Bruttissimo. E anche pericolosa. Che paura, me. Che paura. No, no, che paura. Io non ho paura, neanche no, lei. No, paura. Io, che paura, che paura. No, non voglio fare paura io, signor Cruciani. Però ma io non so di, provocate il la punto, gente disperata. Ma chi provoca la gente disperata? State ma chi la provoca? Perché? È due, tre mesi. Ma perché? Provochiamo. Non lo so, dovete dirlo voi. Cosa ne pensate voi di questo gesto? Cosa ne pensate di quest'uomo che ha sparato? Ma sono quattro giorni di un folle, di un ma sono quattro giorni che ne parliamo. Non bisogna cosa ne pensate? Sì, ma lei deve stare calma, cara Cristina. Allora, calma. Si no, calma anche lei. Lei deve stare calma innanzitutto. Cosa ne pensate? Lei. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Se lei, ma perché dovete chiedere alle persone che vi dicono che capiscono, ma non giustificano questo gesto? Cosa perché ne non pensano, c'è niente da capire, lo sa la canzone. Appunto, non appunto, c'è niente da capire. Siamo in una situazione. Non c'è niente pericolosa. Da capire, non c'è nessuna situazione. È uno. Ah, no? No. Ah, già è vero, anche Berlusconi lo diceva. Ma che c'entra Berlusconi? Non c'è nessuna situazione che possa giustificare. Che possa non ho detto questo, critica l'aggiunto. Lei non c'è nessuna situazione che possa giustificare uno che spara alla testa di un carabiniere, ha capito? Ah no? E si chiama disperazione. No, follia. La disperazione si doveva sparare una pistolettata in fronte, ha capito? E avrebbe e fatto perché, meglio. Scusi, e avrebbe fatto meglio. C'è il suicidio e l'omicidio. Ah, perché sparare un carabiniere è uguale lei, che spararsi in testa. Lei che tendenza avrebbe secondo lei? No, guardi, Cruciani. Per fortuna non ho nessuna suicidita tendenza di questo o tipo. Omicida. Non ho nessuna tendenza di questo tipo. Perché non si è mai trovato in una situazione di disperazione assoluta. No, ma anche se mi trovassi certamente non avrei... No? Non... Ma come fa a dirlo? Attenzione perché così lei diventa veramente pericoloso essere sicuri sì. Di questo tipo di affermazione. Va bene, sarà pericoloso, che devo fare? Eh sì, lei è una persona pericolosa. Sono è pericoloso. Vero. A questo punto glielo dico, se veramente lei non sta recitando. Va bene, Massimo da Modena, un attimo solo, resti lì Cristina. Massimo da Modena. Salve, buonasera. Dica. Io vorrei solo proporre una riflessione. Sì. Dunque, Radio 24 è un organo di stampa, giusto? Quindi prenderà qualche tipo di finanziamento. Presumo, non lo so, francamente non lo so. Però presumo. Quello che le voglio presumo portare, che vuol dire presumo? È una radio privata che sta sul mercato e campa al 99,9% su soldi che vengono dalla pubblicità. Poi ci sono dei contributi che vengono dati per quello che riguarda il traffico, eccetera, ma sono minimi, cioè non è che campiamo con quella roba lì, è proprio una cosa risibile, ha capito? Ok. Bene. No, ma non è ok, cioè non è ok, è così, cioè non è ok. Io non prendo una lira dallo Stato, un euro, lo no, vuoi capire o no? Io non parlo di lei, io non sto parlando di lei, io sto solo dicendo questo, che prendere in parte il giornale, per esempio ne prende molti di più. No, il giornale non prende un euro, il giornale. Come non il giornale quale? Il Sole 24 Ore? Il Sole 24 Ore ci sono le agevolazioni che riguardano la stampa, la carta e le spedizioni. Okay. E le spedizioni. Ma ripeto, anche se si togliessero quella roba lì non cambierebbe nulla, cioè, no, ha capito o no che i giornali, la maggior parte dei giornali sono mantenuti in piedi dai lettori e dalla pubblicità. Lei, dottor Cruciani, le tolgono, non le arriva più lo stipendio. Ma le tolgono cosa? Se le tolgono cosa? Lo stipendio. Ma certo, se non mi arriva lo stipendio, certo che non mi arriva lo stipendio, su questo non c'è dubbio. Ma se non arriva cosa fa? Se dopo fa ma che cazzo ne so, ma Massimo, ma che vuol dire? Ma che ragionamento è? Ma che vuol dire? Ma cosa ma vuol dire? Ma cosa vuol dire una cosa del genere? Lei è ridicolo. Vuol dire io sono artigiano, tu vai da clienti che devono pagare, lavori fatti, comunque la fattura, c'è tutti i documenti e non ti pagano. Vabbè. Allora prendiamo tutti la pistola, su Ignazio da Cagliari. Ignazio da Cagliari. Salve. Dica Ignazio. Buonasera, parlo con il terrorista Cruciani. Sì. Mi hanno dato del sovversivo. Allora Ignazio dica. Allora, io premetto che... No, ma lei non deve premettere perché ha pochi secondi, per cui deve andare veloce. Allora, non trovo giusto che venga impugnata una pistola per ferire o ammazzare. Sì. Allora, la cosa che mi preoccupa veramente è quel manifesto, quel volantino che è stato pubblicato dai NOTAV, dove si inneggia la violenza e si vuol far diventare questo signore. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.